È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Direzione Padova, David Parenzo. Molto bene, per l'esattezza dal bagno delle donne del treno. Dal bagno delle donne del treno, perché sei andato nei bagni delle donne del treno? Perché voglio dire all'ingegner Moretti, a cui do i miei più distinti saluti, che ho prenotato tardi e non ci sono posti a sedere. Vabbè, non è colpa dell'ingegner Moretti, abbi pazienza. No, ho capito, però mettessi un vagone in più. No, poi lui ha ragione. Ma ho capito, cioè, devi mettere un vagone in più perché tu non hai prenotato in tempo sul treno in direzione Padova da Milano. Guarda che sei forte. Vabbè, ho capito. I liberi professionisti non è che possono decidere quando partire. Sì, ti vorrei segnalare che anche il venerdì di Pasqua, così tanto per darti un'informazione in più. Comunque, siamo in collegamento con David Parenzo dal treno Milano-Padova, come avete sentito. Questa è la zanzara e c'è il cia-cia-cia della segretaria. Fra poco vi spiego perché. La barzelletta di Berlusconi sulla segretaria, rivelata ieri da Anno Zero, il giallo della barzelletta. Perché non è stata mandata in onda prima? Si è chiesto Santoro. Giallo, giallo chiaramente inesistente, perché c'è, se c'è una cosa che non vuole fare Berlusconi è quella di nascondere le barzellette. Ma tant'è, sentiamo. Allegri, le ricorda Capello? Io sono vecchio, sto perdendo la memoria. Lo può paragonare a qualcuno, qualche allenatore del passato del Milan? Questa mattina stavo inseguendo la mia segretaria per farmela sul tavolo e mi ha detto... Volete sapere come prosegue la barzelletta? Perché poi l'audio viene abbassato, viene tolta la seconda parte. E la prima era questa, l'avete sentita? Questa mattina stavo inseguendo la mia segretaria per farmela sul tavolo. Ma presidente, l'abbiamo fatto 2 ore fa, mi dice lei. E io le rispondo, vedi, la memoria mi fa difetto. Giallo Santoro, sentite... certo. Ma certo. Quale giallo, su, senti Santoro, senti cosa ha detto. Perché non è mai andato in onda? Ma chi se ne frega perché non è mai andato in onda? Non lo so, ci sarà stato qualcuno più zelante del solito. Ma, bravo, ma se c'è una cosa che Berlusconi fa è quella di diffondere il verbo delle barzellette. Lo diffonde, cioè lo diffonde a tutti. Tra l'altro recentemente in un'occasione davanti, credo, al ristorante da Giannino a Milano ha detto una barzelletta un po' sporca e ha detto... Questa non la scrivete, ridendo, come a dire, tanto lo so che poi mandate in onda tutto o scrivete tutto, via. Il problema è come si fa ad andare oltre se c'è un ostacolo tra noi e questo oltre. E soprattutto, se questa cosa fosse capitata, non so, negli Stati Uniti, in Francia, in Inghilterra, i giornalisti come avrebbero reagito? L'avrebbero scritto, avrebbero riportato di questa barzelletta, l'avrebbero fatta vedere oppure no? E soprattutto, perché non è stata mostrata e cosa si voleva nascondere? Cosa si voleva nascondere, giallo Santoro? Devi ammettere che è un po' ridicolo, E io lo dico apertamente, attirandomi le critiche di molte persone, ma ci può essere stato qualcuno così in quel momento, solamente le telecamere, non so di chi, forse di Mediaset, ma non lo so, mi interessa poco, che hanno deciso di tagliare l'audio e poi successivamente di non mandare in onda. Dai, su. Se c'è una cosa che Berlusconi fa è parlare delle barzellette e dirle apertamente sulla strada, cioè non c'è nessun motivo, non c'è il giallo della barzelletta nascosta. Magari è successo che in quel momento gli è un po' sfuggita. Sì, ho capito. Non c'è nessun giallo, diciamo la verità. Non c'è nessun giallo e comunque non c'è un giallo da farne addirittura un problema di Stato con evocazioni e con rimandi all'Inghilterra, alla Francia, eccetera, eccetera. Proprio su quello che dice Berlusconi le barzellette non c'è mai stato nessun tipo di censura. Comunque, è una discussione aperta anche a voi, per carità. Però, Prima di presentarti l'ospite, c'è ancora il caos PDL sulla vicenda Lassini. Cantala anche tu questa, Parezzo. Fatti più in là. Lassini, fatti più in là. Lassini. In realtà lo dice la Moratti, fatti più in là. Sentiamola. Il partito ha espresso una condanna piena, il segretario regionale Mantovani ha in mano una lettera di dimissioni irrevocabili da parte di Lassini secondo quelle che sono le modalità che ci sono state comunicate dal Viminale, quindi per me il caso Lassini è chiuso. E però Lassini fino a ieri a Porta a Porta alla 7 diceva cose completamente diverse. Bisogna rispettare la volontà dei milanesi alla 7, questo qua. Cioè, io sono in lista, se mi votano sto lì. Io penso che sarà una decisione di carattere politico che non dipende certamente solo da me. Penso che bisognerà rispettare certamente la volontà dei milanesi. Poi oggi ha detto, anche questo è piuttosto contraddittorio, comunque non si capisce, un attimo solo, Lassini a un certo punto ha detto oggi, pochi minuti fa, perché ormai le dichiarazioni si succedono in maniera molto veloce, ha detto non è colpa mia se sono ancora in lista. Beh, ho capito, sì, non è colpa tua se sei in lista, ma insomma come va a finire? Lassini è in lista oppure no? Perché ci sono pareri diversi, sentiremo più avanti anche il capolista dopo Berlusconi del PDL, cioè Riccardo Decorato, che dice io sono dalla parte della Moratti, sono per l'esclusione della lista, d'altra parte lo dice lo stesso Berlusconi. No, veramente non lo dice lo stesso Berlusconi, un caos indescrivibile. È con noi Remigio Ceroni, buonasera. Buonasera, ascoltatori e a tutti voi. Come sta Ceroni? Beh, sopravvivo dopo le pallottole che mi sono state indirizzate, devo dire che ancora resisto. Mi sono state indirizzate comunque pallottole. Allora, il titolo di oggi per riassumere per gli ascoltatori, dottor Ceroni, il Fatto Quotidiano titola in questo modo: ieri picchiava la moglie, oggi riforma la Costituzione. Vita e opere di Ceroni, nuova stella del PDL. All'interno un articolo firmato da Sandra Murri, che è marchigiana come lei, anzi originaria sostanzialmente degli stessi luoghi, dello stesso paese, in cui si ricostruisce di una denuncia in realtà, del fatto che sua moglie sarebbe andata un giorno a un pronto soccorso e avrebbe detto al pronto soccorso di essere stata percossa da lei. Io personalmente dico una cosa, qualsiasi cosa sia successa, e non lo so, non capisco il collegamento tra questo fatto, un fatto privato, e la sua proposta di riforma della Costituzione, il fatto che lei sia venuto alla ribalta in queste ore. Le voglio chiedere una cosa, lei sporgerà querela nei confronti del fatto? Ma intanto incominciamo a dire che dopo questa intervista, questo passaggio, i 5 minuti di questa sera, per me il caso è chiuso. L'ho detto prima a un'agenzia, però così lo metto per radio in modo che tutti gli italiani possano sapere questa cosa. Non tornerò mai più su questo argomento. Beh, questo, Dopodiché, dico che veramente sono sorpreso per tanto clamore. Cioè, non ho ancora ucciso nessuno. Ho espresso nei limiti delle prerogative di qualunque deputato un punto di vista, un motivo di riflessione dopo 5 anni che sono in Parlamento. Mi sono convinto della necessità di rappresentare un sentimento ampiamente condiviso tra gli elettori che è necessario procedere a un riequilibrio tra i poteri costituzionali. No, ma questo lo sappiamo, Ceroni, lei come sono interprete bilanciati verso organi non eletti. No, ma questo ne abbiamo già parlato ieri. Che dire questo, pensare questo possa essere un delitto. Cioè, no, io ma... credo. Questo qua ne abbiamo già parlato ieri. Ceroni, mi scusi. Di questo qua, della sua proposta di riforma dell'articolo 1 della Costituzione, di quello che ne è seguito, anche degli attacchi che ha ricevuto, perché lei l'hanno dipinta come un eversivo. Oggi, in un'intervista al Messaggero, Bocchino, che è il vicepresidente di Futura Libertà, parla di lei come di un mercenario al soldo di Berlusconi. Ma al di là di questo, di quello che è successo, che secondo me nelle espressioni è assolutamente grave, poi ognuno la può pensare come vuole sulla sua proposta, qui siamo di fronte a qualcosa di diverso. Perché, ripeto, c'è un giornale, Il Fatto Quotidiano, che titola in questo modo: ieri picchiava la moglie, oggi riforma la Costituzione. Io vorrei capire da lei se lei ha intenzione di sporgere quelle là nei confronti del Fatto, se ritiene opportuno farlo. Ma guardate, io non partecipo allo sport della macelleria che la sinistra italiana da tempo pratica. Per me la politica è una cosa seria, è un servizio, quindi personalmente non farò nulla, però credo che la mia famiglia, tirata in ballo in maniera del tutto inopportuna, completamente estranea a questioni politiche, perché nessuno ha visto mai mia moglie partecipare a un evento politico, né le mie figlie, per cui credo che abbia intenzione di tutelarsi nelle sedi opportune. Comunque a me, cioè, sua moglie sporgerà querela? Piacerebbe sapere che ne pensa il Presidente della Repubblica di fatti di questo tipo, perché... Cioè lei sta dicendo dovrebbe intervenire a tutela di un parlamentare? Ma voglio dire, dovrebbe fare innanzitutto il Presidente della Camera, e poi mi piacerebbe anche in forma privata, per carità, non può il Presidente della Repubblica però fare Ceroni... queste cose. Però in forma privata magari si può dire che cosa ne pensa di comportamenti, di atteggiamenti che oggi sono sempre più frequenti nella politica italiana. Cioè lei sta invocando il fatto che Fini in forma privata e anche il Presidente della Repubblica intervengono a tutela di un parlamentare per l'articolo scritto su un giornale. Ma per questo lei sa benissimo, questa è una questione politica, ci sono i tribunali. Lei sta dicendo che sua moglie ha intenzione di sporgere querela e lei no. Ma perché lei non vuole fare querela se si ritiene gravemente diffamato da questa cosa? Questa è un'accusa grave, cioè il fatto di aver picchiato la propria moglie. So che sarebbe un andare avanti tutti i giorni, e quindi mi sentirei un piccione nelle mani di queste persone che non hanno nulla da perdere, che per sopravvivere scrivono menzogne dalla mattina alla sera, quindi io non avrei gli strumenti per proteggermi da un atteggiamento di questo tipo. Quindi io tutt'al più, visto il notevole interesse che ha per me, per la mia famiglia, la signora Murri, la invito domenica, il giorno di Pasqua, noi con la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello, mia sorella, sì, siamo tutti qui a pranzo, quindi possiamo informarla di tutte le cose familiari che... non penso che sua moglie, che vuole sporgere quella, sarà molto contenta, ma voglio capire... Cosa, sì, dimmi, Ceroni, perché dimmi. Anch'io come il direttorismo Cruciani credo che non ci sia una grande relazione tra la sua proposta di riforma della Costituzione e questo fatto che le viene attribuito, ma l'unica cosa che vorrei capire è, quindi lei, diciamo, si sente smentisce che l'episodio sia mai avvenuto, sua moglie non è mai andata a pronto soccorso, questo è l'altra questione. Poi falso, è tutto falso, quindi lei è vittima della macchina del fango. È completamente falso, anzi io approfitto, la non signora Murri abbia un insulto di dignità, scriva quello che vuole di me, ma abbia il buon senso di chiedere scusa a mia moglie e alle mie figlie, che non c'entrano nulla con le vicende politiche. Ecco, questo è l'ultimo appello che io posso fare, e su questo argomento vi ringrazio per una cosa, però, prima di che mi avete dato di partecipare. Onorevole Ceroni, un attimo solo, però, per carità, un attimo solo, però lei non vogliamo, per carità, metterla sotto interrogatorio, però Parenzo giustamente chiede una cosa: purtroppo questa questione è venuta sul tappeto, ripeto, secondo me ci sono due aspetti. La prima cosa che vorrei sapere da lei è se pensa che nei suoi confronti sia stato applicato un metodo simile a quello che è stato chiamato metodo Boffo. Si sente vittima della macchina del fango, diciamo, io in questo credo che sia una dimostrazione evidente del degrado della politica. Mi occupo delle mie vicende personali, ho una visione e atteggiamenti politici sempre seri e corretti, quindi mi sono veramente sorpreso di cosa possa capitare a un deputato che esprime un proprio punto di vista. E la seconda cosa è questa: sua moglie è andata a pronto soccorso e ha detto ai medici di essere stata picchiata da lei? Tutto assolutamente falso. Non è nemmeno andata a pronto soccorso? Sono in grado, tutto assolutamente falso. Magari sono in grado di inventare qualunque altra cosa, ma tutto assolutamente falso. Cioè non è nemmeno andata a pronto soccorso? Tutto assolutamente falso. Va bene. Va bene, grazie. Sì, grazie. Buonasera, a lei, grazie a lei. Buona Pasqua a tutti voi. Grazie. Arrivederci. Traffico, Cioni. Torniamo subito. Eccoci, 18:49, 800 24 00 24. Hai sentito, Parenzo, che Ceroni, il deputato del PDL che ha proposto la modifica dell'articolo 1 della Costituzione, ma ormai questo sembra appartenere quasi al passato, è attaccato oggi pesantemente dal Fatto Quotidiano. Ieri picchiava la moglie, oggi riforma la Costituzione. Qualcuno già parla di metodo boffo all'incontrario, macchina del fango all'incontrario, da sinistra verso destra. E oggettivamente sul metodo qualche ragione questa critica ce l'ha, questa posizione, anche secondo me mi sembra assolutamente assurdo legare una cosa che peraltro lui nega, ma magari più avanti sentiremo anche chi ha scritto quell'articolo, con iniziativa parlamentare di Ceroni. Francamente sono due cose, sì, d'accordo, che... Dopodiché, siccome un deputato è una persona, è un uomo pubblico, no? Quindi è chiaro che quando c'è un deputato che fa notizia viene scandagliato, e così nella sua vita anche privata. Ma qui mi pare che Ceroni dica no, non è tutto completamente falso, quindi questo deve essere il punto. O viene pubblicato il referto che la collega Murri, che in genere è sempre molto precisa, dice di aver trovato, sì, la notizia, certo. Anche qui non penso che se la sia inventata, no, la Murri. No, assolutamente no, figuriamoci, la conosco pure io. No, non penso che il fatto vada in cerca di quelle. Quindi la questione diventa intrigata, no? Lui dice che giallo Ceroni, è una cosa seria, non è come il giallo di Santoro, no, questo qua. È seria questa davvero, è seria. Perché comunque ci sono in gioco gli affetti familiari, i figli, la moglie, è una questione molto seria effettivamente. Certo. Sì, certo, serissima. Bene, andiamo agli ascoltatori. Domenico da Roma, buonasera. Signor Cruciani. Dica. Senta, io volevo intervenire sul problema lì delle barzellette del Presidente del Consiglio. Sì, sull'ultima barzelletta, sì. Rivelata da Santoro con giallo. Perché fino adesso non l'abbiamo ascoltata? Beh, insomma, sì, l'abbiamo ascoltata. Abbiamo ascoltate altre di Santoro, di barzellette di Berlusconi, insomma, non mi pare. Qualcuno dice che si riferisce ad anni fa, quando era ancora sposato, non lo so, ma insomma... Non è francamente, non è appassionante la materia, non le barzellette di Berlusconi, il capire perché all'epoca qualcuno non l'ha mandato in onda, non lo so, ma non è che poi tutto debba essere mandato per forza in onda, e se non viene mandato in onda la barzelletta di Berlusconi c'è la censura della Spectre, cioè non ci sono tante cose che non vanno in onda, non mi pare che manchi la materia su cui discutere per quello che riguarda Berlusconi, o no? Allora, se mi fa parlare, perché sì, dica. Io la vedo in una maniera un pochettino più, diciamo, più strutturata, che il Presidente del Consiglio non abbia nessuna paura di raccontare barzellette lo sappiamo tutti, anche perché sono frequenti questi episodi. Il problema è che in genere io le barzellette, ma non solo le barzellette, per esempio quello che è successo al Parlamento Europeo con Schulz e altri episodi similari, io riesco a vederli solamente o su YouTube o su alcune fonti di informazione. Sta di fatto che i fatti che in qualche maniera potrebbero appannare quello che è, insomma, la figura del Presidente del Consiglio, io su TG1 o su altri tipi di testate non le vedo. Quindi non si tratta di un giallo, si tratta semplicemente di una situazione che viene in qualche maniera pilotata per evitare gaff. Ma dove viene pilotata? Dove? Ma lei l'ha sentito recentemente Berlusconi fuori da una macchina che raccontava una barzelletta davanti a tutti? Ma lei ha visto Berlusconi circo? Ma che c'entra il TG1? Ma sempre col TG1? Ma lei ha l'ossessione del TG1? Ma di solito al TG1 non mandano le barzellette di nessuno, nemmeno di Berlusconi. Poi se vogliamo dire che Minzolini è vicino alle posizioni del Presidente del Consiglio, allora glielo dico. Sì, è vero, Minzolini è vicino alle posizioni del Presidente del Consiglio. Benissimo, ma non è che ogni cosa che succede in Italia e allora il TG1, ma non è che si può ragionare in questo modo. Ma il TG1 è allora il TG1 deve mandare in onda le barzellette di Berlusconi. Vabbè, abbiamo deciso questa sera. Una realtà politica. Va bene, ma quello è il discorso sul TG1, perché me lo lega le barzellette? Perché è la dimostrazione concreta di un'incapacità. Ma cosa? a controllare i propri sentimenti, i propri istinti, è quello che gli fa perdere la capacità. Ma questo l'abbiamo, lo dicono tutti, ma lo dicono tutti. Ma chi l'ha detto, Domenico? Se ne parla dappertutto da 2 anni, ma dove vive lei? Dove vive? Vorrei vedere TG4, vorrei vedere Canale 5, vorrei vedere TG1. Vabbè, lei parla. Vorrebbe vedere questo, benissimo. Parenzo, tu che dici? No, io dico che la cosa assolutamente curiosa è che fino ad oggi non era uscita questa barzelletta. Perché sei così innocente? Perché qualcuno l'ha censurata? Perché? Mamma mia, perché? che noia. Perché? Chiedi pure, sei come Santoro, dai, su, Santoro. Va benissimo, per carità, ma non c'è niente di male. Non c'è niente di male essere come Santoro, cioè, no, un prosecchino. Ma dove sei? Al bar del treno? Ma no, al bar, qui è bello questo. Sì, quella va benissimo. Prosecco sul treno, ma di che stai parlando? Che stai facendo? No, sono seduto sul treno e passa il signore che offre bibite calde e fredde, ringrazio l'ingegner Moretti, e niente, volevo prendere un prosecchino. E un prosecco da quel tizio che passa col carrello? Beh, il tizio, il signore che lavora. No, il tizio nel senso, non mica in senso dispregiativo, per carità. Domenico, la ringrazio molto di questo intervento, no, lo dico sul serio. Andrea da Chieti. Pronto, buonasera. Sì. Allora, grandissimi Cruciani e Parenzo, sono onorato di parlare con voi. Allora, ascolti, io purtroppo premetto che l'ascolto sempre in replica notturna. Sì, perché bene, di lavoro bene così. Non ho potuto. Viva la replica notturna! Sì, no, infatti, ma mi tenete sul morale, insomma, perché vado a letto molto tardi. Per motivi di lavoro non posso ascoltarvi in diretta. Oggi, casualmente, riesco ad ascoltarvi in diretta e intervenire. Però allora, vede, sono passati 30 secondi, la musichetta ci invita al giornale radio delle 19. Andrea, non si preoccupi, che insieme ad altri ascoltatori da Modena, da Genova, ancora da Genova e da Pescara, richiameremo tutti alle 19:15. Parenzo, buon prosecco, ci sentiamo dopo. Siamo qui 800 24 00 24, in collegamento con il treno Milano-Venezia, anzi, però transita da Padova, David Parenzo, circondato, mi dicevi, da persone che ascoltano la Zanzara anche in treno, notizia eccezionale che diffondiamo urbi e torbi, no? Ce l'ho qui uno dei fan del direttore Cruciani, il signor Andrea. Bene, grazie signor Andrea, grazie anche dal treno, ascoltatori della Zanzara. Parenzo, eccoci qua. C'è Andrea che ha mandato un messaggio addirittura alla moglie per dire che sarebbe stato in diretta sulla radio. No. Ma lei viaggia davvero allora? Beh, dico sì, certo. No, perché il signor Andrea non credeva. Adesso chiedi un attimo perché non credeva che tu... No, adesso Cruciani chiede perché lei metteva in dubbio i miei viaggi. No, non mettevo in dubbio, è bello dare un viso, una faccia, una voce che si sente con piacere tutte le sere. Però lei pensava che Parenzo un po' fosse un gioco delle parti, lui viaggia, non pensava che in realtà di trovarlo su un treno. Non ti può sentire perché gli ho tolto l'auricolare, sennò sembra che ci baciamo, capito? Perché c'è l'auricolare. Ah, tu dici non è il caso, non è il caso. La mia bocca si avvicinava pericolosamente. E questo non va bene. Questo non va bene. Va bene in uno stato in cui il Vaticano. Vabbè, ma questo diventa un altro problema. Ma che c'entra il Vaticano adesso? Devi mettere in mezzo il Vaticano, che non c'entra nulla. Facciamo lanciare il TG3 alla solita amica nostra, che è molto meglio, naturalmente, cioè dire Maristel Polanco. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Non si placa a Milano lo scontro su Lassini, la Moratti si è dimesso, caso chiuso, la Lega difende il sindaco, la Santanchella attacca. Berlusconi al Papa, l'Italia si è adoperata in modo generoso con i migranti, la Francia avverte, potremo sospendere Schengen. Il TG3 nella tendopoli di Santa Maria Capo Vetere, picchiati dalla polizia, denunciano i tunisini trasferiti da Lampedusa. A rischio il referendum sull'acqua, il governo parla di modifica alla legge, i promotori sarebbe un furto di democrazia. In Siria il venerdì islamico diventa un massacro, manifestazioni antiregime in tutto il paese, gli agenti sparano sulla folla, decine di morti. Giallo di Ascoli, si indaga sulla nuova SIM card della donna uccisa, forse movente e passionale. Appello dei familiari, aiutateci a trovare l'assassino. Rita Levi Montalcini compie 102 anni, per lei una festa online con giovani ricercatrici, il suo messaggio: agire sempre in maniera eticamente corretta. Ti amo, solo ti amo. A chi è rivolta questa canzone, Parenzo? Beh, in fondo ti amo al grandissimo Carlo Ciavoni del Venerdì di Repubblica, che oggi ci ha dedicato, come dire, una recensione al vitriolo contro di noi. Ma noi lo amiamo. Ti amo, ti amo, Ciavoni. Ti amo, Ciavoni, ti amiamo. Che grazie. Non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo. Beh, tremo adesso un po' esagerato, al massimo ti amo. Ma si capisce subito dal titolo che ci adora. Ma come è fastidiosa la zanzara di Radio 24. Beh, d'altra parte, una zanzara non è... si chiama la zanzara, no? Non si chiama latte e miele, con tutto il rispetto. Per cui certo, la zanzara è fastidiosa. D'accordo, partiamo da questa. Il titolo. La farfalla, la farfallina sarebbe più. Scrive, scrive Carlo Ciavoni, che amiamo. È probabile, anzi diciamo che è sicuro, fare casino in radio funziona. Bene, come in TV fa audience? La domanda, veramente non lo sappiamo perché non ci sono i dati. Comunque, la domanda da porsi tuttavia è: quanto può durare il gioco se appare evidente che il trambusto si organizza solo per fare ascolti? Beh, caro Ciavoni, questo fa parte di quelle cose da sfera di cristallo, insomma. Quanto certo, può durare il gioco? Chissà. E chi lo sa? Scrive ancora il signor Ciavoni dalle colonne di Repubblica. Una domanda che Giuseppe Cruciani, cioè il sottoscritto, teorico accanito di questa strategia di marketing, non si pone. Teorico accanito di questa strategia, non si pone. No, non mi pongo questa domanda. Giornalista di lungo corso, beh, adesso non esageriamo, insomma, ha trovato la sua notorietà a Radio 24, che i suoi successi li ha sempre guadagnati diversamente con la zanzara. Perché poi il signor Ciavoni in realtà si propone come direttore dei programmi di Radio 24, perché vuole dettare la linea editoriale. Infatti, sostiene, fare casino vuol dire, sempre per Cruciani, discutere fragorosamente, spalleggiato dal suo sodale di turno, David Parenzo, hai capito? Sodale di turno, una cosa un po' questo scura. È vero, no? Questo è vero. Sì, però è una cosa un po' scura, il sodale di turno, no? Vale. Sodale di turno. Sodale. Ce ne sarà un altro, per ora è questo il sodale di turno. Vuol dire poi sguazzare dentro un insopportabile battibecco, alzando la voce, facendo volare insulti, interrompendo. Ma vuol dire anche durante i pacati confronti, tra virgolette, dove possono entrare in ballo Voltaire e Cicciolina, questo è un complimento, eh? O il pool di Mani Pulite, poi tra virgolette notoriamente manovrato dei comunisti. No, veramente, signor Ciavoni, io questo non ho mai detto, questa è la dimostrazione che lei questa radio non la sente. Buttare lì un accenno al bunga bunga di Berlusconi, sempre virgolettato, sono solo fatti suoi, mai detto e mai pronunciata questa frase, ma lei l'avrà sentita sicuramente. Chiudere con il Mago Telma, veramente il Mago Telma è su un'altra radio, dunque sostanzialmente lei questa trasmissione non l'ascolta. E poi ecco la proposta editoriale. Attenzione, Radio 24 dovrebbe essere... Questa trasmissione va via, cancellata perché non è adatta a Radio 24. Uno spasso se non ci fosse un'altra Italia, che invece vorrebbe ragionare ed esprimere opinioni sull'attualità, senza essere maltrattata da Cruciani, che tronca ogni affermazione considerata impertinente o tediante. Anche perché alla lunga, prima ancora che irritare, tutto questo annoia. Vabbè, poi sotto il caos in genere c'è nulla, la radio lo smaschera prima. Bene, grazie, ti amo. Grazie, ciao a voi. Oh mamma mia, ci vuole la vita serra. Perché io devo mettere la testa a posto. Novità sulla fidanzata di Berlusconi, caro Parenzo. Grandi novità arrivano, Le novità arrivano da Anno Zero ieri sera, da Anno Zero, dove l'avvocato della signora Minetti, che tu conosci molto bene, cioè conosci chi è, che si chiama Daria Pesce, se non sbaglio. Come no? Certo. Ha fatto una piccola rivelazione. Sentiamo. In che ruolo partecipava a queste serate allora la dottoressa? Insomma, lei ha avuto una relazione sentimentale col premier. E quindi partecipava come la compagna, la donna, il flirt del premier. Hai capito? Per un periodo la signora Minetti era la, non so se si può dire fidanzata o flirt, relazione sentimentale. Insomma, mi sembra di aver capito. Non che è una notizia nuovissima. No, non è nuovissima. Però, siccome c'era il giallo sulla fidanzata di Berlusconi, per quanto tempo allora la signora Minetti è stata fidanzata con Berlusconi o ha avuto un flirt sentimentale con Berlusconi? Chissà, tutto è nato, lo ricordi, tutto è nato da una dichiarazione proprio dello stesso Berlusconi. E del resto io, da quando mi sono separato, non avrei mai voluto dirlo per non dare un'esposizione mediatica, ma ho avuto uno stabile rapporto di affetto con una persona che ovviamente era assai spesso con me, anche in quelle serate che certo non avrebbe consentito che accadessero a cena o nei dopo cena quegli assurdi fatti che certi giornali hanno ipotizzato. E poi le ultime rivelazioni di Lele Mora. Ha una fidanzata, ma sarà lui a dire chi sarà quando è il momento, non certo io. C'è questa bellissima signorina, bionda di capelli, che si sta laureando, vi dico qualcosa di più, molto bella, molto per bene, molto onesta, molto, che ha una grande attenzione sia lei che lui, non è una parlamentare e non gli interessa di fare politica, il mestiere studia, ha già una laurea e sta prendendo la seconda laurea, ma saranno loro due a dire se sarà il momento di presentarsi, dirlo al popolo italiano. Va bene, in realtà tutto questo caos è voluto, questo caos intorno alla fidanzata di Berlusconi, mi pare piuttosto evidente. Perché io? Ma perché quando io sento Lele Mora mi viene da sboccare? Perché? Ma sbagli, perché? Mi viene mal di stomaco. No, perché sei, perché in fondo sei moralista, sei un po' moralista, Novità da Scilipoti, Ah, Scilipoti. Novità da Scilipoti, Facciamo partire la musichetta per Scilipoti. Minacce a Padova, dove stai andando adesso? Sarà stato Parenzo forse? Non lo so, forse Parenzo ha minacciato Scilipoti. Non lo so, sentiamo. Io sono stato a Padova, dove ci sono state anche delle telefonate in diretta in televisione, dove Mauro, che l'unica cosa migliore per me era quella di essere trattato come samurai traditori, perché i samurai traditori divenivamo tra dalla testa. Non sono nulla. Se curate con le creme, carezze del potere, per mettere una curiosità, ci tocca una. Poi una rivelazione: ho scritto 11 libri, alcuni in inglese e addirittura in portoghese. Ti dà una pista, Scilipoti, Parenzo? In portoghese. E chi se ne frega in portoghese? Sull'argomento politico è il primo, io ne ho scritti qualche altro, ho scritto qualche altro libro, ne ho scritti in tutto 11, di cui diversi in lingua portoghese, uno in lingua inglese, tradotto in lingua inglese e gli altri in lingua italiana. Cioè, quando uno scrive un libro è come se portasse avanti la nascita di un figlio, perciò è importante, chi ti fa la prefazione a quel libro è importante. Bene, 800 24 00 24, minacce per Scilipoti, ecco, per strada a Padova. Sì. Che una cosa seria su questo, nessuno tocchi Scilipoti, è veramente un paese barbaro, questo lo dico con grande serietà, è un paese barbaro, un paese che deve dare la scorta a Scilipoti, che è un uomo che io critico politicamente per tutto quello che ha fatto, è il Danny DeVito della politica secondo me, ma sono molto serio, è un brutto paese quello dove uno come Scilipoti deve girare con la scorta, per me non è un paese civile, ecco, ma questo lo voglio dire con serietà. Ma questo conferma, questo conferma quello che dicevo io, è molto peggio chi dice Munnizza o Monnezza a Scilipoti rispetto a Scilipoti stesso. Vabbè, perché poi da Monnezza all'aggressione passa poco, come sai. Andiamo a sentire la borsa. Anzi, no, non c'è la borsa oggi. Per cui pubblicità e torniamo subito con Andrea Dacchietti e tutti gli altri ascoltatori. Ma non c'è la borsa il venerdì? Oggi non c'è la borsa. No, questo venerdì non c'è la borsa. Non è che non c'è la borsa il venerdì, ma sei di un'ignoranza crassa. Non è che il venerdì non c'è la borsa. Questo venerdì non c'è la borsa. A dopo. È una scelta giusta, una scelta giusta. Siamo qui con lo Zanzara Party di questa sera alle 19.33, 800 24 00 24 con Parenzo. Quanto manca a Padova? Manca ancora un'oretta. Carrozza 1, posto 93. Fai bene a dirci esattamente dove ti trovi. Carrozza 1, posto 93 di un Eurostar City, se non sbaglio. Freccia Argento. Ah, la Freccia Argento, un'altra cosa, sì. Ingegner Moretti, sì. Freccia Argento in direzione Venezia, treno velocissimo, meraviglioso. Adesso questo. Comunque, treno molto efficiente, io sono un grande fan dei treni in generale, sono un grande fan dei treni italiani, quelli super veloci naturalmente. Dove andiamo? Eravamo con Andrea da Chieti, 800240024. Andrea, prego. Pronto, salve. Dica. Ascolti, Cruciani, prima del mio intervento le do una segnalazione che magari potrebbe esserle utile per gli argomenti del suo programma. Sì, mi dia una segnalazione. Ascoltavo il TG3 nell'attesa che voi mi richiamaste. Sì. Vittorio Sgarbi, che lei conosce molto bene, intervistato al TG3, ha definito il PDL come un pollaio di personalità modeste. Sì. Ecco, io direi che è un commento molto acuto e che per quello che mi riguarda è anche ampiamente condivisibile. Comunque, e poi un piccolo inciso, guardi, su Ciavoni, sì. Mi ha divertito ma molto. Ma no, ma adesso lasciamo perdere questo argomento, perché peraltro noi abbiamo un po' ironizzato e tutto. No, ma lei fa benissimo da Mario. Ognuno può scrivere e fare esattamente quello che vuole nell'assoluta libertà. No, ma infatti, ma è la dimostrazione tipica che lei la zanzara la conduce in maniera magistrale, perché io le dico che, pur considerandola... lei, Cruciani, molto acuto e intelligente, molte sue posizioni mi fanno incazzare letteralmente, però nonostante questo non posso fare a meno di ascoltare la zanzara, e quindi questa è la dimostrazione tipica, il mio caso come quello di Ciavoni, che lei, che deve fare audience, fa benissimo il suo mestiere, quindi vada tranquillo e ami Ciavoni. Va bene, allora, Andrea, di che voleva parlare però? Allora, io ho telefonato per un commento sul match fantastico di ieri sera fra lei e Telese. E poi la prego di farmi fare un piccolo inciso alla fine sul nucleare. Sì, però Andrea non è che può fare un monologo di 20 minuti, per cui lo c'è... so, ha ragione, mi piacerebbe, però purtroppo. No, per carità, ascolti. Poi possiamo pure pensarci, però innanzitutto cominciamo con la questione di Telese, su. Allora, Telese, direi che sull'argomento fondamentalmente lei ha ragione. Telese ha una posizione, direi, leggerissimamente talebana, come ha detto lei, però mi permetta di dire, io sono un fan di Telese, quando Telese ieri sera le ha detto lei tu Cruciani ti arrampichi sui vetri per difendere il centrodestra, io ho goduto come un antilope. No, ma lei fa bene a godere, in realtà non c'entrava niente il centrodestra in quel caso lì, vede, il punto è diverso, che l'argomentazione di Telese, l'argomento utilizzato da Telese, tu difendi qualcuno, era fuori luogo, perché non si trattava di difendere Berlusconi, si trattava semplicemente di rispondere ad una critica che aveva fatto, folle secondo me, Telese a Berlusconi sulla questione del seno rifatto di Noemi Letizia, tutto qui. Andrea, la ringrazio, però devo andare a Pescara da Filippo, buonasera. Signor Filippo? Ma che scusino. Filippo, che sta facendo? Era distratto. Pronto? Era distratto. No, non sono distratto. Come sta lei? Distrattissimo. Bene, buonasera, dica. Innanzitutto ci diamo del lei o per tutti? Abbiamo sta storia. No, ci diamo del lei, Filippo. Ci diamo del lei. Ok, va bene. Io veramente volevo intervenire su quel tema del consigliere comunale di Milano, Lassino. Sì. C'è un caos pazzesco nel PDL. No, per esprimere la mia solidarietà al manifesto che ha fatto Assicio. In che senso solidarietà? Solidarietà deve esistere in questa posizione, perché chiaramente è noto a tutti che certi personaggi... Che cosa è noto a tutti? È noto a tutti che certi personaggi che adesso governano la Procura di Milano, sì, ma prima facevano gli studenti in piazza, sì, hanno sempre avversato la democrazia in Italia. Lorenzo, chiami tu? Sì. Scusi? Signor Filippo? Non ho capito bene, signor Filippo. Certi magistrati che sono adesso nei tribunali, prima erano in piazza a protestare contro la democrazia, a combattere la democrazia? Certo, perché loro non possono andare al potere attraverso il voto e il consenso della gente, sì, lo potevano fare solo in modo armato. E adesso prima che fanno? Prima armando i terroristi, adesso armando la gente. Cioè, prima armavano i terroristi? Certo. Erano loro stessi fiancheggiatori e partecipi a certe tendenze. Ma lei pensa... beva un goccetto d'acqua, si metta seduto su una panchina con un goccio d'acqua, si rilassi, che arriviamo immediatamente, stia tranquillo comunque, tutto bene, stia sereno. Filippo, dove si trova in questo momento? Io sto a Pescara. Sì, ma in che zona? Dove? In che zona esattamente? Perché mandiamo qualche signore, non si preoccupi se vede dei signori in camicia bianca a un certo punto. Perché li abbiamo mandati noi qui da, da Milano. Abbiamo mandato dei signori in camicia bianca. No, non faccio queste battute di spirito perché non servono. Ma non servono, no, qui serve, no, come, e come no? Servono, servono. Le assicuro servono. Che servono i signori in camicia bianca. Studi durante il giorno, non sia superficiale, né lei sì, né guardi, lei. Guardi, la questione, la questione della, dei fiancheggiatori delle Brigate Rosse all'epoca, la possiamo studiare, la possiamo ripescare, ne possiamo parlare, non gliene frega niente a nessuno ormai delle persone che ci stanno ascoltando. Detto questo, il manifesto via le BR dalle procure, lei pensa che c'entri qualcosa con questo ragionamento storico sul fiancheggiamento al terrorismo italiano? Non c'entra assolutamente nulla, caro Filippo. Ma lei perché è lo Spirito Santo che lo può affermare? No, ma lo so perché ho parlato con le persone interessate e perché è evidente che è così. Non c'è nessun riferimento al passato di alcuni magistrati o alla militanza di alcuni magistrati come di altre persone, caro Filippo. È evidente che è così. Se lei l'ha interpretato in questo modo, mi sa che c'è bisogno dei signori che stanno per arrivare, di cui sente le sirene da lontano. Eccole qui le sirene, se lei insiste ascolti su questo argomento. Ascolti il mio consiglio, le prepari meglio le sue trasmissioni. Benissimo, allora me le insegna lei. Mi mandi qualche fax o qualche cosa, mi mandi qualche plico, qualche libro da studiare, caro Filippo. Perché se vogliamo parlare del fiancheggiamento dal punto di vista storico, lo facciamo in un'altra sede perché annoieremmo tutti. Qual è il problema? Avanti, mi dica qual è il problema. Di Berlusconi è che molti di questi fiancheggiatori se li hanno messo nelle sue aziende. Ah, lei dice questo, cioè che nelle sue aziende ci sono un sacco di comunisti, questa è la sostanza. Perché è troppo buono, molti di questi fiancheggiatori se l'hanno messo dal suo libro paga. Lei dice, perché che dovrebbe fare e che dovrebbe fare con questi qua invece? Ammazzarli? È rimasto sorpreso, hai visto? No, ma guardi. Queste parole. Guardi Filippo, se lei cerca di sorprendermi con questi argomenti dicendo che Berlusconi ha assunto negli anni un sacco di persone che nel passato avevano militanza di estrema sinistra, le assicuro che non mi sorprende affatto quello che dice lei, perché forse conosco le cose almeno come lei o forse meglio. Per cui non è questo il punto. Ripeto, tutti questi discorsi che lei fa non hanno nulla a che fare con quei manifesti affissi a Milano. Niente, assolutamente niente. Questo è quello che penso io. La ringrazio. Mario da Genova. Che succede? Mario? Scusi, sono Cecilia, la moglie. Le passo subito mio marito. Beh, scusi, scusi un attimo, signora Cecilia. Roba bellissima. Signora Cecilia? No, no, io sono Mario. Ah, no, c'è la sua moglie prima. Noi vogliamo la Cecilia. Sì, sempre. Ok, sono. Noi preferiamo sua moglie Cecilia, abbia pazienza, Mario. Comunque, vabbè. Però non penso che sia, ma comunque ci accontentiamo di lei, però non si preoccupi. No, la faccio partecipare. No, per carità, no, parli lei, faccia il suo intervento, Mario, poi casomai. Ma dove siete? Dove siete con sua moglie? Genova, prendiamo l'aperitivo. Ah, l'aperitivo a Genova, meraviglioso. Sì, no, attenzione. Dove l'ascolta lei la zanzara? Sul telefonino? Dove l'ascolta? Telefonino, cellulare, bene. Sui treni, sul telefonino, una cosa pazzesca. Mario, dica. No, eravamo in auto, sì. Ora abbiamo preso l'aperitivo. Sì. Bene, cosa voleva dire? Volevo parlare della concia. Della concia, sì, che dell'aggressione verbale. Concia, sì, la concia, mi dichiaro abbastanza omofobo. Mi dichiaro omofobo. Non è che la dichiarazione, scusi Mario, adesso con tutto il rispetto, per carità, però non è che Dio, Mario da Genova dichiara sono omofobo, non è il presidente della commissione cultura della Camera, cioè Mario da Genova dice sono omofobo. Vabbè, certo, vorrei sapere. Poi le passo la Cecilia. No, però mi dica lei, è più interessante quello che sta dicendo. La Cecilia impazzisce per Scipoti. No. Vabbè, adesso Mario, non facciamo troppo casino, sennò ci accusano da Repubblica di fare troppa caciara al signor Ciavoni. Però mi dica lei che cosa significa sono omofobo, che riferimento c'è con la vicenda Concia? Perché per quanto mi riguarda, una dichiarazione personale, assolutamente personale. Sì. Per me tutti gli omosessuali sono guasti, ovvero sono deviati. Sono deviati. Punto. Bene. Sono deviati. Cioè, dunque, secondo lei hanno fatto bene. Scusi un attimo, Mario, no, però restiamo su questo. Scilipoti ci interessa meno. Cioè, dunque, le persone che si sono avvicinate. Scilipoti interessanti. Beh, ho capito, Mario, ma mi faccia decidere a me gli argomenti di cui parlare. Abbia pazienza un attimo. Mario, un attimo, sto chiedendo a lei, le persone che si sono avvicinate alla signora Concia, prendendola a male parole, eccetera, eccetera, non so che cosa le hanno detto, non mi ricordo, bruciamola viva o cose di questo tipo, hanno fatto bene? Finirai nei forni, hanno fatto bene? Il soprannome di Parenzo. Invece, hanno fatto bene o no? Hanno fatto bene o no quei signori che hanno insultato la signora Concia? Mario? No, attenzione, lei mi dando la parte nobile di me e di conseguenza non è giusto che sia così. Vabbè. Chiamiamone due, Parenzo. La parte nobile di me dice no, non è giusto che si comporti così. E invece la parte? La parte invece quella obiettiva dice sono guasti e di conseguenza i guasti vanno relegati. Vanno curati, devono essere curati, perché hanno dei problemi. E dunque la signora Concia va curata? Certo, assolutamente. E in che modo, secondo lei? Internata? Va internata? Ma se lei guarda la Concia, assomiglia, è praticamente la fotocopia di Luxuria. Sono da curare, Luxuria e la Concia, sono da curare. Cioè da internare anche? Sono da internare? Attenzione. Da curare, cioè non da soli, ce li deve portare qualcuno a curare oppure ci possono andare anche da soli, no? Almeno questo, cioè Mario, ci deve essere qualcuno che ce li porta? Non ci possono andare da soli, perché purtroppo il nostro governo è così deviato che, dato che prende la macchina, la station wagon della moglie e va per Trump, di conseguenza loro cosa fanno? Si trovano in difficoltà e loro cosa fanno? Danno credito a questi... Scusi un attimo Mario, ma sua moglie che è di fronte a lei è a conoscenza di queste sue idee riguardo all'omosessuale? Ed è d'accordo anche sua moglie? Ma gliela passo? No, ma è d'accordo anche... È d'accordo? No, per carità, già ce n'è bastata. Io non posso parlare per altri, io rispetto per mia moglie. Per cui vabbè, ci passi sua moglie, così un bello spaccato di una coppia italiana. Ci passi sua moglie, la signora Cecilia, benissimo. Coppia italiana di Genova, il marito dichiara questo, la moglie dichiara? Signora Cecilia? Buonasera. Sì, buonasera, dottor Luciani. Anche secondo lei gli omosessuali vanno internati e vanno curati? No, io volevo dire un'altra cosa, che a me piace molto il dottor Parenzo. Sì, ho capito, però signora Cecilia, io le ho chiesto... Io mi preoccupo molto, signora Cecilia, sono molto preoccupato di piacere a lei e al suo marito che dovrebbe fare la prova del palloncino. Vabbè, adesso la signora Cecilia non ha detto nulla, la signora Cecilia. Scusa un attimo, signora Cecilia, però io le voglio chiedere una cosa. È uno che si sposa, quello lì... Sì. Suo marito ha fatto delle dichiarazioni, che non è che sono le dichiarazioni del sindaco di Genova, per carità, è un ascoltatore, un cittadino comunque importante. Io voglio capire, anche secondo lei gli omosessuali vanno internati e curati? No. Vabbè, allora, scusi. Abbiamo una visione diversa. Però è importante questa cosa qui, cioè come nell'intesa tra due persone dovrebbe essere importante, perché non mi pare che abbia detto io sono dell'Inter o del Milan, cioè ha detto che gli omosessuali vanno internati perché sono malati. Comunque vabbè, non voglio dire nulla, perché non voglio mettere becco nei vostri rapporti. Che cosa voleva dire su Parenzo? No, che io ammiro tantissimo Parenzo, fondamentalmente perché è una persona assolutamente ben educata, per come intendo io l'educazione. Sì. Parecchi mesi fa, perché io vi seguo sempre mentre stiro, mi fate morire da ridere quando avete fatto una specie di show con Otelma, Parenzo, vi giuro, ho bruciato una camicia perché ero morta da ridere, ma a parte questo, volevo dire che Parenzo aveva detto, a proposito di non mi ricordo più, devo essere sincera. Cioè l'interpretazione di quello che ha detto Parenzo, una cosa fantastica. Parenzo ha detto, è una persona che non sa stare a tavola. Per me è stato determinante. Vabbè. Vuol dire che ha un certo tipo di educazione e non si limita al fatto di stare a tavola, chiaramente, bensì sa come comportarsi con il resto del mondo, capisce? Vabbè. Sì, ho capito. Questo è il concetto. Vabbè. Quindi io trovo che sia una persona che veramente mi piace. Ma non è vero che faccia ecco, non vogliamo farvi litigare, cerchi di portare suo marito sulla retta via. Ecco perché mi pare importante. Cioè, suo marito ha detto anche la prova del palloncino. La prova del palloncino perché serve. Grazie, grazie. Grazie. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però ci hanno le ali per volare lì. E come suggerisce il nostro caro Ciavoni su Repubblica, siamo in grado di passare in questa trasmissione ricordandovi sempre il numero 800 24 00 24 da Voltaire a Cicciolina, in questo caso da Cicciolina a Voltaire, e dunque ospitiamo, ma noi ne siamo orgogliosi, non è che lui lo fa come ci attacca, ma in realtà noi, per noi è un complimento assoluto. Siamo in collegamento con Giuliano Urbani, buonasera. Io sarei Voltaire. Beh, piano sì, parole, beh, eh. caro Urbani, se lei scelga lei, insomma. No, ecco, per carità, la parola e il personaggio sono un complimento, dico semplicemente un po' sproporzionati. No, ma non volevamo accostarla a era una critica che ci hanno fatto, un programma che riesce a passare da Voltaire a Cicciolina, che per noi non è una critica, ma è in realtà un complimento. Tutto bene. E dunque, tutto bene. Senta, caro Urbani, professor Urbani, come sapete, uno dei fondatori di Forza Italia, in questo momento cosa fa? È stato ministro della Cultura, in questo momento che ruolo ha, signor Urbani? In questo momento, la premessa è che sono un pensionato, naturalmente. No, ma la seconda è pensionato dalla politica pure? Mi sto interessando di cose che mi incuriosiscono molto. Sì. Cioè sto curando l'anno culturale della Cina in Italia e l'anno culturale dell'Italia in Russia. Sì. E quindi, essendo io giovanissimo come noto... Certo. Viaggio molto. Per cui, capito Parenzo, qual è la situazione? Abbiamo la signora Nicole Minetti, consigliere regionale Lombardia, certo. E Giuliano Urbani che si occupa di rapporti tra Italia e Cina, Italia e Russia. Adesso, per carità, non anche... vedo l'accostamento perché io non conosco la signora Minetti. No, per carità, è una battuta. È facilmente fattibile, qual è... professore. Spiegalo tu, Parenzo, dimmi. L'accostamento è facilmente fattibile perché nel 94 lei, che è stato assieme a Marzano, a Martino, a Coletti, tra i grandi fondatori Coletti, di Forza Italia. Lei ha visto io vedo e registro una involuzione della Forza Italia, perché siamo passati da Martino e da Urbani a Minetti al geometra di Arcore. Vabbè, adesso non è che tanto altro, diciamo, adesso, Parenzo, è un partito talmente grande e rappresentativo di tante cose che ovviamente, come inevitabile in democrazia, c'è un po' di tutto, ecco. Io lo dico per lei, professore, che lei è stato un intellettuale, un fondatore di quel periodo, non si sente a disagio a vedere come è finito sto partito, o no, amico mio? Ma non lo considero finito, ce lo considero un pezzo della sua storia, ma la storia continua, grazie al cielo la vita continua. Senta, professor Urbani, in questa diatriba che c'è stata negli ultimi giorni, per esempio, tra due persone che lei conosce molto bene, come Galan e Tremonti, lei con chi sta? Non mi dica un po' con tutte e due, perché non so. So che la deludo, allora. Però, un po' con tutte e due. Beh, sai, ci sono ragioni diverse. Galan, lei pensi, con Galan io ho fatto il primo comizio politico della mia vita, alla Fiera di Verona, mi ricordo, sì. E eravamo tutti e due molto, come dire, preoccupati e imbarazzati, sia Galan sia io, che non l'avevamo mai fatto in comizio in vita nostra, e ahimè bisognava farli. La fiera poi voleva dire davanti a 3.000-4.000 persone, sì, era uno scherzo, sì. Da poco, voglio dire. E con Tremonti amico, solo vi conoscete da un sacco di anni. Con Tremonti poi non solo amico, siamo colleghi universitari, abbiamo fatto alcune cose assieme, no, ma soprattutto abbiamo fatto la cosa che in qualche misura oggi è alla base di questa maggioranza politica e di questo governo, cioè ci siamo inventati un nuovo rapporto con la Lega. Nel 2000 abbiamo fatto il primo programma basato sul cosiddetto poi federalismo. Ecco, e quindi sa. E dunque lei si trova un po' di difficoltà a scegliere tra i due in questa polemica molto forte perché non accusa l'altro addirittura di essere è uno che ci fa perdere le elezioni, Galan dice di Tremonti, poi dice anche un socialista, come se fosse una sorta di un'offesa gravissima. Un'offesa gravissima dal punto di vista della politica economica. Ecco, voglio dire, secondo lei Galan ha le sue ragioni a dire una cosa di questo tipo? Beh, ha degli argomenti, naturalmente, però ci sono i pro e i contro nella vita. Tremonti credo che in questi anni, cioè in presenza soprattutto della grande crisi finanziaria che ha colpito tutti i grandi paesi occidentali, ma il mondo praticamente, ha un merito storico, quello di aver salvato lo Stato sociale in Italia. No, non è poco, non è poco. E poi certo, se questo può essere un merito da un certo punto di vista, per tutti i miei amici ad esempio liberali e sì, soprattutto liberisti, questo Stato sociale non andrebbe salvato, andrebbe riformato in modo drastico, ma quindi non dovrebbero essere mai, come dire, date delle concessioni, fatte delle concessioni. Lo Stato sociale vuol dire le pensioni, vuol dire la pubblica amministrazione, vuol dire la spesa. Dunque lei capisce Tremonti da un certo punto di vista. Ma guardi, io credo che molti italiani lo ringrazino enormemente. Poi certo potrà esserci qualcuno che dirà forse sarebbe stato meglio fare in un altro modo, drasticamente gli sprechi nella spesa sanitaria. Però la spesa sanitaria è una roba che interessa ai cittadini italiani molto da vicino. Senta una cosa, salute, per cui la cosa che voglio capire sono conciliabili le due posizioni? Perché mi sembra che siamo arrivati a un punto, adesso pare che ci sia una mediazione, ci sia stata da parte di Berlusconi, forse un chiarimento definitivo ci sarà dopo le elezioni. Sembrano due posizioni completamente diverse tra due ministri importanti. Se Forza Italia fosse l'ex Forza Italia, fosse un partitino d'opinione, io direi no, smettetela di tentare conciliazioni e fate quello che avete in testa. Esatto. Però il problema è che qui invece siamo alle prese con un partito di governo. Come fa un governo, purtroppo, per chi Come fa un governo a conciliare le due posizioni? Ma deve conciliare per forza, perché da un lato deve salvare la spesa sociale, ma dall'altro deve inventarsi poi modi di assicurare lo sviluppo, perché se no il famoso discorso dei giovani, come dire, diventa un fallimento, cioè per dare un futuro ai giovani occorre un paese in sviluppo, quindi lo sviluppo è indispensabile, ahimè è difficile, perché bisogna liberare risorse, da dove si liberano le risorse? Tagliando un po' la spesa. Senta, lei in una battuta molto veloce, perché abbiamo la pubblicità, poi torniamo con lei. Dal punto di vista delle riforme dello Stato, liberali, riforme eccetera, è stata una delusione il governo Berlusconi fino adesso, l'esperienza del governo Berlusconi? In 30 secondi. Beh, la crisi economica ha costretto a concentrare tutte le forze nel combattere la crisi e quindi le riforme sono passate in seconda linea. Ma in generale il liberista Berlusconi quanto l'ha convinta? Il liberista della prima ora? Io spero che riprenda rapidissimamente questa ispirazione, perché oggi è quello che serve al paese, però naturalmente serve conciliandola con la spesa sociale, perché altrimenti facciamo morti e feriti in giro. Capito, Parenzo è sempre diplomatico, professor Urbani, non c'è niente da fare. Diciamo diplomaticissimo, però insomma comunque sono le sue idee, mica sto dicendo che le dice per diplomazia. Vorrebbe tornare a fare politica attiva, Urbani, se la sentirebbe oppure no, è troppo tardi? No, c'è nella vita c'è sempre un momento in cui vuoi fare una cosa. Adesso mi diverto molto con Pechino e Mosca, ma sto promuovendo gli interessi dell'Italia. A dopo la pubblicità. Siamo qui con la Zanzara alle 8 in punto, 800 24 00 24, con Davide Parenzo in collegamento dal treno Milano-Padova e con Giuliano Urbani, già ministro della cultura, uno dei fondatori di Forza Italia. Qui voglio chiedere subito una cosa che riguarda un po' la vita privata di Berlusconi, professor Urbani, ma secondo lei nel rapporto con le donne Berlusconi è sempre stato così, almeno come lo descrivono ormai da tempo giornali, non solo giornali, nemici, caro Urbani? Guardi, questo bisognerebbe chiederlo alle donne che lui ha frequentato. No, voglio dire, lei queste feste, per esempio, no, organizzate da Berlusconi, lei vi ha mai partecipato nel passato? Mai partecipato e mai saputo, tra l'altro, di queste feste. Se non ci fosse stato poi il battage politico che c'è stato, francamente non l'avremmo saputo. E ci siamo, per la verità, molti amici, da altri, o anche Tremonti compreso, molto stupiti di tutto questo. Cioè anche Tremonti è rimasto stupito di questa cosa? Con una punta di ammirazione, con una giusta, scusi? Con una punta di ammirazione, perché essendo io poi tuo coetaneo, dico, per bacco. Cioè, non ho capito, lei di fronte a queste notizie e feste, notizie di feste che sono uscite, il primo pensiero che le è venuto è, insomma, questo Berlusconi, beato lui. Voi siete vivaci e incalzanti, imponete un po' di ironia, perché può rispondere in un modo cattedratico a domande del genere. No, ma lei non deve rispondere in modo cattedratico, assolutamente. Però il titolo è Urbani, due punti, beato lui. Un po' sì, si è beato Berlusconi che riesce a fare queste feste anche oltre i 70 anni, o sbaglio, Urbani? Insomma, questo non può non dirlo uno, ecco. Senta, ma... lei sta impegnato dalla Russia e la Cina, amico mio, e quell'altro... lei è impegnato dalla Russia e la Cina e Berlusconi è impegnato ad Arcole in altre cose. Siamo, regole, Urbani, siamo antropologicamente molto diversi. In che senso? Lei parla di un imprenditore dello spettacolo, per molti anni è stato così Berlusconi, parla di un signore che invece deve fare degli esercizi ginnastici perché ha passato la sua vita chino su una scrivania a leggere e a scrivere, voglio dire, insomma, lui, ripeto, un imprenditore dello spettacolo e quindi amante del bello, e noi abbiamo letto e scritto anche Giulio Tremonti da questo punto di vista, abbiamo prodotto libri, un'altra cosa. Due cose molto diverse, molto distanti. Ma questo significa che lei, per esempio, non amerebbe circondarsi di 10-15, come si racconta, 10-15-20 signorine? Insomma, le signorine che noi abbiamo frequentato sono state soprattutto le inservienti delle biblioteche. Lei dice non quelle che frequentano o frequenterebbero, poi. Ma secondo poi per carità, quelle che lei vede in televisione, per esempio adesso fare quelle dichiarazioni, io ho il telefono di Berlusconi, ho partecipato a queste feste, erano feste in cui si scherzava, si rideva, si ballava, battute, eccetera, cioè, lei invidia questa situazione di Berlusconi, di poter creare situazioni di questo tipo? Lei ha già nominato un elettrodomestico sul quale Berlusconi è vissuto per molti anni e che io utilizzo pochissimo, la televisione. Se non ci sono partite di calcio o film, in genere non guardo la televisione. Quindi capisci, quando vi dicevo antropologicamente molto distanti, non siamo noi gli esperti a cui rivolgere queste domande. No, certo. Parenzo, ma la cosa che si vuole capire, anche se sempre vista dal professor Urbani, nella vita di Berlusconi da questo punto di vista c'è stata una svolta, cioè quello che raccontano adesso le cronache, professor Urbani, è che Berlusconi da 2-3 anni a questa parte abbia svoltato, cioè nella sua, anche nel modo di intendere il rapporto con le donne, forse la morte della madre, non lo so, cose di questo tipo. Secondo lei c'è stato un cambiamento? Ma francamente io non l'ho avvertito per una ragione, perché poi non ho più frequentato come una volta, però per una volta posso escluderlo, ecco, per anni e anni mi sembrava l'uomo concentrato su questa grande scommessa, come fu usato l'espressione, scendere in politica, no? Ecco, è proprio un'altra roba, mai visto nulla di simile. Dunque, allora, lei poteva immaginare quello che è venuto fuori? Ma francamente sono rimasto e rimango molto scettico, molto molto freddo, perché nella vita possono esserci delle grandi trasformazioni, naturalmente, ma io non me lo sarei mai aspettato, questo voglio dire, quindi rimango molto perplesso e sono propenso a immaginare che la fantasia stia superando la realtà. Vabbè, però adesso no. È nipote di Mubarak, Rubi Rubacuori. Vabbè, quello che ne sa, adesso fai queste domande al professor Urbani, abbi pazienza. No, Parenzo. Ma perché io stimo il professor Urbani, è uno dei pochi liberali rimasti in questo paese, e infatti purtroppo non è più in Parlamento, ma magari per sua volontà. È stata una scelta mia. Magari per sua volontà. Non posso rimproverare così, amico mio. Dico tutti così, come quando mi cacceranno dalla Zanzara, io dirò no, ma è stata una scelta mia. Dice, come, ti ha cacciato Cruciani? No, è stata una scelta mia, ho deciso di abbandonare. Dicono tutti così. Naturalmente ci si può credere o no, però l'avevo scritto sulla stampa una settimana prima che avvenisse. Ma sì, è così. No, va bene, però vede che è un po' cambiato adesso questo partito che lei ha contribuito a fondare, è cambiato radicalmente, culturalmente. Cioè, per esempio, la scelta dei deputati, in alcuni si parla molto della scelta anche della signora Cruciani. Minetti o di altre persone in base a una relazione personale con Berlusconi. Lei ci crede a questa cosa? Non lo so, e quindi non posso fare atti di fede in un senso o nell'altro. Finché ci sono stato io non è avvenuto così, il reclutamento era molto diverso e anche molto esigente. Poi a un certo punto, certo, mi sembra che un po' in tutti i partiti si sia dove dire, affermato più l'apparire che l'essere, ecco. Quindi, chi è che va bene in televisione? Tu. Benissimo. Allora, e anche le curve contano, per esempio, nel PDL. Le curve, la bellezza fisica conta più adesso di prima? Le curve probabilmente contino. Non dimentichiamo che sono sempre pericolose. Vabbè, però insomma si può dire questa cosa qua, che a un certo punto, forse anche in altri partiti sicuramente, però in particolare nel PDL, insomma, la bellezza fisica e soprattutto femminile si è contata di più, o no? Sì, ma probabilmente anche quella maschile poi a volte, però no, io credo che questo che è successo in questo periodo, e cioè il fatto che sia emersa una pochezza della classe politica, imponga per il futuro, anche per ottenere proprio più consensi, di preferire nel reclutamento le capacità a governare, a risolvere problemi, ad amministrare, a gestire, cioè piuttosto che l'apparenza, ecco, perché l'apparenza, come suol dirsi, inganna. E poi il vuoto si vede. Senta una cosa, ma Berlusconi è finito politicamente o invece ha ancora carte da giocare? Ah, credo che sia pienissimo di carte per due ragioni. Una in positivo sua, perché l'uomo è strapieno, stracolmo di risorse umane, intellettuali, di volontà, di determinazione. Non molla. E l'altra è perché, guardi, è la legge. Col bipolarismo prevale la legge del tennis, cioè se tu c'hai davanti un avversario che non ti ripassa la palla, tu vinci sempre. Dunque non c'è l'avversario per il momento. Ah, bravissimo. E secondo lei chi potrebbe essere un avversario? Un avversario? Una crisi epocale della sinistra come opposizione in questo paese. Ah, non c'è dubbio. Senta, l'avversario secondo lei che può, non è ancora nato, non è ancora all'orizzonte, nato nel senso politicamente? Forse è già nato e potrebbe esserci benissimo, solo che loro devono smetterla di essere ossessionati dalla presenza di Berlusconi e presentarsi in positivo, con degli argomenti in positivo. Non possono usare come unico argomento aggregante mandiamo a casa Berlusconi, perché non ci riescono. Ma chi potrebbe essere l'avversario secondo lei? C'è già, lei dice? Forse c'è già, basterebbe che dicesse adesso, a parte il problema Berlusconi, noi pensiamo di governare il paese così, così, così. Senta, facciamo a tutti questa domanda, ma... Montezemolo lo vede come un avversario possibile o no? Un avversario vincente nei confronti di Berlusconi? Ma guarda, a proposito dell'essere o l'apparire, mi sembra molto lontano dalla cultura per governare un paese. Cioè, più apparire che essere. Perché è un imprenditore come Berlusca. No, attenzione, ha detto una cosa interessante. Montezemolo, più apparire che essere. Imprenditore... Ma come Berlusca è un signore che è venuto fuori dal nulla e ha creato risorse finanziarie. Ecco, io vorrei che i nuovi dimostrassero un passato dal punto di vista creativo, saputo creare risorse. Cioè, secondo lei non ha creato nulla Montezemolo? Beh, ha gestito cose, va benissimo, ma io non credo che quello sia l'identikit del governante che oggi serve al paese, ecco. Poi mi sbaglio. No, più apparire che essere, ha detto lei, più apparire che essere. E senta un'altra cosa, non vede Tremonti, lo vede come successore di Berlusconi? No, non credo. Il successore di Berlusconi non esiste da questo punto di vista, perché Berlusconi ha creato un movimento politico a base carismatica, quindi è lui, punto, ecco. Dopo ci sarà un Big Bang, dice lei. Ma dopo, nel senso proprio quando... Dopo, chissà quando, che ne so, 120 anni. Tutto, ecco, sì. Beh, allora c'è un ripensamento generale del sistema politico italiano, che altrimenti non è più quello del 94, per capirci. Nel 94, Berlusconi è nato contro qualcuno, ma c'era questo qualcuno. Non dimentichiamo l'erede del più grande partito comunista. Lei dice oggi non c'è l'opposizione. Oggi non c'è, è tutta una frantumazione... disarmante, ecco. Io mi augurerei che venisse fuori qualche cosa anche da quella parte lì, perché poi ripeto, il bipolarismo è come il tennis: se non c'hai l'avversario non ti diverti nemmeno. Sento un'ultimissima cosa riguardo Fini. È un avversario? Fini è un avversario oppure no? No. È troppo come dire, ha una presente troppo contraddittorio rispetto al suo passato storico e rispetto al suo passato recente di numero 2 della, di quello che si chiamava la Casa delle Libertà. Io sono assolutamente d'accordo con lei. Le faccio un'ultima su Fini, le faccio un'ultima domanda che riguarda Sgarbi, il suo vecchio nemico, non so se sia ancora, vi siete poi mai riconciliati con Sgarbi? Sì. Mi ha scritto bellissime lettere, umanamente molto convincenti. Ha fatto bene Galan a bocciarlo per quello che riguarda Venezia, per la soprintendenza? Guarda, non lo so, perché nei dettagli non conosco la vicenda, ma quello che so, credo che fosse una cosa, come dire, non evitabile da parte di Galan, credo. Ma troppi incarichi Sgarbi, è sempre stato... Ma lui è talmente ricco di fantasia e di vitalità, certo, però insomma... Lì ci sono delle regole precise che vanno rispettate, come ovvio. Bene, grazie professor Urbani. Grazie a voi. Buona serata. Meno Brambilla. Più Urbani, meno Brambilla. Vabbè, adesso che c'è, devi mettere in mezzo anche la Brambilla adesso. Cosa c'entra la Brambilla, Parenzo? No, ma per carità, va benissimo. No, però, ma voglio dirlo. Senta, Urbani, secondo lei Berlusconi è fidanzato? Adesso lo so che lei non lo può sapere, però c'è un ultimo giallo che è venuto fuori. È fidanzato Berlusconi o no? Ma credo che sia una persona talmente ricca di vitalità che potrebbe fidanzarsi in continuazione quando vuole. Ah, è uno che si fidanza in continuazione in realtà. Ma cioè, ripeto, non lo vede da relazione fissa in questo momento. Ma questo dipende dalle sue propensioni affettive, non lo so, non so che dirle. No, in generale, come tecnicamente, professore, lei che è un professore, lo reputa tecnicamente possibile questa supposta intensa attività sessuale del premier? Ecco, questo tecnicamente. È interessante questa cosa qua, Parenzo, bravo a fare questa domanda. Beh, naturalmente bisogna chiederlo a un medico. Ma io credo che la sua vitalità abbia mille modi per esprimersi, ecco, compreso questo. No, per cui secondo lei è possibile che gli attribuiscono a un uomo di 70, 71, non mi ricordo esattamente, 74, 75, gli attribuiscono 74 prestazioni sessuali pazzesche, tante donne, tutte addirittura 4, 5 nella stessa sera, cioè lo trova... Gelate. Le trova invenzioni oppure è possibile che sia così? No, è anche un po' invidioso lei, no? No, ma che c'entra, a parte l'invidia qui, sono mutate talmente fantasiose che non meritano commenti. Va bene professore, grazie. Arrivederci. Prego, buona serata, pubblicità. Siamo qui alle 20:17, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, caro Parenzo. Questa è la Zanzara. Confermo, è vero. Andiamo a sentire il signor Pierluigi da Latina. Beh, devo dire sferzanti le opinioni del professor Urbani, soprattutto su Montezemolo, mi ha stupito su Montezemolo. Curioso, no? Curioso. Sì, assolutamente, più apparire che essere, non ha mai prodotto nulla, in realtà solamente finanza e basta. Vabbè. Questo per chi dice che da noi non escono notizie, questo per chi dice, comunque. Vabbè, comunque, che è? Ciavoni? Sempre Ciavoni, dici? Sì, che facciamo solo... Io lo amo, Ciavoni, mi ha degnato di una... Mi ha citato sul Venerdì di Repubblica, il giornale fondato da Scalfari, cioè io gli vorrò bene per sempre. Ma quando mai? Che Scalfari, il giornale fondato da Scalfari, ti rendi conto? Sodale di turno, sì, sodale di turno. Beh, non è proprio una grande citazione, comunque. Vabbè, come diceva la buonanima, perché se ne parli, no? Assolutamente. Con chi eravamo? Eravamo con Pierluigi da Latina, sì, bravo. Pierluigi, dica. Pronto. Lei voterà Pennacchi? Lei voterà Pennacchi? Non credo di votare Pennacchi, sì. Perché lo conosco, insomma. La famosa lista Pennacchi di Latina che fa notizia, eh? Ah, sì, certo, perché ha fatto un sacco di notizie, perché insomma, volevano proporlo come sindaco, poi si è messo invece a fare il capolista, ha detto no, c'ho tre infarti, non le faccio queste cose. Ma lo incontravo spesso Pennacchi al bar, insomma, ogni tanto. E mi sommergevo. Alla fine non fa nemmeno il capolista, in realtà, è l'ispiratore della lista. Ah, sì, è vero, è l'ispiratore di Futura Libertà, la lista Fascio Comunista, queste roba qui. Beh, Fascio Comunista è solo lui, perché gli altri sono fascisti, insomma. No, ma gli altri sono persone, cioè in realtà lasciamo perdere. Pierluigi, cosa voleva dirmi? volevo parlare della vicenda di quella signora che è stata insultata perché era lesbica e che stava a Roma, stava la signora Concia, la signora Concia. Concia si chiama. Deputato del Partito Democratico insieme alla sua compagna tedesca. Ah, sì. Ma quello che volevo dire era che era come andare, insomma, dal vestito da laziale in una curva di Romanisti. Non ho capito bene. Era come andare da laziale in una curva di Romanisti? In che senso? Scusi, non ho capito. Nel senso che lei è un personaggio pubblico e ha esposto la sua preferenza sessuale, e questo la espone anche a tutti i giudizi delle persone che non sono d'accordo con la no, sua... No, mi scusi, caro Pierluigi, lei è una persona simpatica, ci ha chiamato con gentilezza e noi rispondiamo e la facciamo parlare. Però abbia pazienza, non ho capito che cosa avrebbe fatto, quale sarebbe il reato commesso dalla signora Concia. No, cioè... nessun reato, è che avrebbe dovuto aspettarselo. Certo, ha tutto il diritto di andare dove gli pare con chi vuole. Cioè, che cosa si poteva aspettare? Che qualcuno, siccome lei passeggia con la sua compagna al centro di Roma vicino alla Camera, si doveva aspettare che qualcuno si avvicinasse per dire vi portiamo a rogo brutte lesbiche, non ho capito. Sì. Sì, secondo me sì, se lo doveva aspettare, se lo poteva tranquillamente e legittimamente aspettare. Scusi, cioè, anche Luigi, le rispondo un attimo Parenzo, che mi sa che è l'unico modo... Luigi, lei è tecnicamente pazzo, ma tecnicamente proprio, eh? Confermato? È confermato? No, Pierluigi, lei veramente non sa quello che dice, abbia pazienza. Cioè... No, lo so benissimo. Pierluigi è pazzo, tre croci d'ansia, l'hanno già scritto. Mi aspetto che... Ma quale sarebbe la curva di romanisti? Quale sarebbe quella strada? Non è che andate in un circolo di Forza Nuova o in un circolo di non so chi che odiano, o di un'associazione anti-gay, scusi. Peraltro Forza Nuova non è che odia, scusatemi, tutti quelli che ci ascoltano magari sono iscritti a Forza Nuova, lo dicevo così per rappresentare l'estrema destra, però insomma non mi pare che siano andati mano nella mano in un circolo di persone che odiano gli omosessuali, semmai possa esistere un circolo di persone che odiano gli omosessuali. Quale sarebbe la curva della Roma? Scusi. Neanche, sì, non mi piacerebbe nemmeno a me. No, quello che è che lei, siccome è un personaggio pubblico e ha esposto la sua preferenza sessuale, andando in giro con la sua compagna, e questa esposizione è stata ben pubblicizzata dai media, da tutti i giornali che ne hanno parlato. E allora? Prima, insomma, E perciò secondo me se lo poteva aspettare, poteva evitare o di esporre la sua preferenza sessuale in pubblico così chiaramente, oppure ma scusi, cioè, Pierluigi, secondo la sua opinione, scusi un attimo, secondo la sua opinione la signora Concia non può camminare mano nella mano, se poi camminava mano nella mano io non lo so nemmeno perché no, ma può camminare come chi gli pare, come gli però pare, non con la sua compagna, ma può camminare anche con la sua compagna, e allora qual è il problema? Ma che deve aspettarsi che qualcuno possa insultarla, perché ma come deve aspettarsi Pierluigi, ma lei è pazzo? No, non sono pazzo, ma quando lei passeggia Pierluigi, sì, mi dia retta, quando lei passeggia per Latina qualcuno forse le urla ah eterosessuale del merda, ma le sembra normale? Beh sì, sembra normale se qualcuno lo fa. No, scusi un attimo, Pierluigi, io non ho capito. No, lei è un caso disperato, amico mio. Non ho capito bene, non ho capito quale responsabilità avrebbe la signora Concia. Non ho capito bene quale responsabilità avrebbe. La responsabilità della signora Concia è di aver esposto pubblicamente la sua preferenza sessuale. Ma scusi, perché secondo lei uno non può dichiarare di essere omosessuale? No, non è che non può, farebbe bene a non farlo. E chiaramente che se lo fa in un mondo, nel mondo attuale, si espone alle persone che non la pensano come lui riguardo a quella sua preferenza, che ancora circolano liberamente per l'Italia, ne sono non la maggioranza però una non piccola e trascurabile minoranza, tra cui c'è lei? No, assolutamente no. Io lei lo dice così da osservatore esterno, diciamo, da osservatore esterno, benissimo, ancora peggio poi tra l'altro. No, scusi Pierluigi, questo è davvero ancora peggio, perché lei non solo dice che ci sono delle persone che odiano gli omosessuali, e questo è notorio, ma non insomma, che non li odia, insomma che non li apprezzano, diciamo, o no, che non li apprezzano, vabbè, insomma mettiamola come vogliamo, non solo dice così, dice anche che a questo punto, siccome esistono queste persone, le persone omosessuali farebbero bene a non dichiarare la propria omosessualità e a non esporla troppo, perché altrimenti si possono sottoporre alle critiche di questi qua, in questo caso anche alle aggressioni verbali, è così o sbaglio? Non è proprio così, le persone pubbliche, diciamo, è chiaro che uno ma come le persone pubbliche? Che significa le persone pubbliche? Ma le persone che hanno una visibilità pubblica, la signora dunque le persone che hanno una visibilità pubblica non devono dichiarare la propria omosessualità, questa no, è la sua tesi. No, perché non la devono dichiarare? La dichiarano, ma devono aspettarsi anche queste reazioni. Cioè devono andare in giro secondo lei con lo scudo, con la pistola, perché possono aspettarsi le reazioni di qualche malato di mente. A me sembra che lei Pierluigi, a lei è chiaro che devono aspettarsi di reazioni di questo tipo, sì. Ma non devono aspettarsi reazioni di questo tipo nel 2012, 2011, Pierluigi, ma di che sta parlando? non devono aspettarsi in un posto normale, in un posto civile, se c'è una persona che passeggia con la propria fidanzata o con la propria fidanzata, magari può scappare un'occhiata di curiosità in un mondo ancora bigotto, a meno scappa, ad altre persone può scappare, ma non persone che vengono aggredite per strada con le parolacce. Abbia pazienza, Pierluigi. Lei non può, lei la prende in modo completamente diverso la questione. Invece di condannare queste persone, dice: ha sbagliato la concia a dichiarare in pubblico, essendo una deputata, la propria omosessualità. Ma lei è completamente fuori di testa. L'hai cercata, ma lei è pazzo proprio. Non ha sbagliato, perché ha fatto benissimo a farlo, ma doveva aspettarsi di poter essere aggredita almeno a parole, io spero non a botte, dalle persone che poteva incontrare, che prima o poi le avrebbe incontrate qualcuna di queste. Ma io che pensa, cioè, che gli omosessuali siano persone da... Lei è un caso irrecuperabile. E in effetti non è una cosa fuori dal mondo, insomma, a me sembra una cosa perfettamente logica. No, ma non è una cosa perfetta. Questo è grave, Pierluigi, questo è grave, che lei la pensi una cosa normale, e lei è quella zona grigia. È normale che diceva Gramsci la propria opinione, no? Come c'era quello del film che lo mandarono nel quartiere di negri di Harlem con il cartello scritto "odio i negracci". Insomma, quello chiaramente ce lo mandarono perché era una prova di... No, ma ho capito, ma quale sarebbe il mondo, cioè il luogo in cui è andata la signora Concia, in cui non doveva andare? Perché lei dice: è come se un tifoso della Lazio vada nella curva della Roma, ci ha fatto questo esempio, no? Ma sì, in realtà non è così, cioè, perché non è che è andata, ripeto, in un covo di estremisti anti-gay, stava passeggiando per il centro di Roma, cioè non mi pare un luogo di estremismo da cui doveva proteggersi, scusi, no, Pierluigi. Ma è un luogo variamente frequentato, dove è frequentato anche dalle persone che i sessuali non li apprezzano, gli omosessuali non li apprezzano. Ho capito, ma che vuol dire? Sono pazzi, sono da infatti ecco perché ci vuole il reato di discriminazione. No, certo, questo no. Questo è gente che esprime la propria opinione in maniera anche un po' violenta. Cioè, insomma, secondo lei quelli che hanno insultato la Concia sono delle persone che esprimono la propria opinione e basta? Sì, sono persone, sì, bravi ragazzi. Come se io, sì, è vero, da romanisti e laziali, io incontro un laziale che ho incontrato allo stadio. Ma non è romanisti e laziali, esseri umani e esseri umani, sono due cose diverse. Ma Pierluigi, romanisti e laziali che sono animali? No, ma non è questione di fede, scusi, allora, non è questione di fede di nessun tipo, questo volevo dire. È un'opinione, no? Ma come opinione? Qui non c'è l'opinione di uno contro l'altro, c'è uno che gli dice: dovresti andare a rogo perché sei una lesbica. Abbia pazienza, Pierluigi, che sta dicendo? Vabbè. Brutto comunista, va bene, dice a casa sua, ma lei... Berlusconi dice che i giudici sono comunisti, li insulta pure a lui. Ma non è la stessa cosa, su, non è la stessa. No, vabbè, questa era la... voleva essere una battuta, ma è uscita male. Vabbè. Pierluigi, si faccia la prova del palloncino, mi dia retta. Direi di partire... Direi di partire però con la terza ambulanza della serata. Questa sera ne abbiamo mandate parecchie. Sì. Dove si trova esattamente? Ce la mandiamo questa ambulanza? E la mandiamo, la mandiamo. Eccola qui. In che zona si trova, signor Pierluigi? Guarda, in che zona? Al distributore di metano di Borgo Piave. Che so, adesso pago il metano. Benissimo, benissimo. Però non vada via prima che arrivino quei signori col camice bianco. Lei ha bisogno di un periodo di cura estremamente serio. Lungo, non lo so, però un periodo di cura. Sì, un periodo di cura in cui ci vuole un po' di riordino delle idee. No, un riordino delle idee nel senso della, diciamo, di una normalità, ecco, di mettere alcune cose a posto, perché se lei di fronte ad un'aggressione che è avvenuta per strada tra un deputato, ma poteva essere chiunque, e un gruppo di imbecilli, dice che la prima cosa che le viene in mente è che ha sbagliato la signora Concia a dichiarare di essere omosessuale, lei ha bisogno di una piccolissima raddrizzata da parte... Ho detto che doveva essere prudente. Ho capito, ha sbagliato allora, adesso non faccia il diplomatico. La prudenza e l'errore è una cosa diversa. Vabbè, Pierluigi, adesso non mi faccia diplomatica, ha detto una coglioneria assoluta e adesso vuole fare diplomatica. No, non è una coglioneria, Cruciani, dai, non è totale, Pierluigi, totale. Cruciani dice coglioneria, io penso che lei rasetti il razzismo, ma comunque... Vabbè, questo è un altro discorso. La ringrazio, Pierluigi, mi raccomando, arrivano, non si muova da là, non c'è la borsa, pubblicità. Bene, tu hai capito qualcosa dalla vicenda Lassini, caro Parenzo, no? Io ho capito che sono salito su un taxi a Padova, sì, e anche qui il fenomeno Zanzara dilaga, il tassista veneto simpaticissimo che ora ti passa stava commentando Pierluigi. Certo, lo facciamo commentare il signor Pierluigi che intanto ci ha lasciato. Dal tassista di Padova, Torino 11, ha sue... un accento veneto strepitoso. E le sue stupidaggini, diciamolo ancora, quelle di Luigi sulla signora Concia. Signor tassista, buonasera, come sta? Buonasera. Niente, al signore di prima non ci vuole solo una visita. Di più, bisogna, dice lei. Bisogna proprio fare un check-up. Check-up completo, check-up, dice completo, lei. Specialmente sulla testa. Ah, lei dice... Consiglio ai signori in camice bianco che stanno andando verso Latina, verso il distributore, non mi ricordo come, della Esso, di non so che cosa, dove si trova il signor Pierluigi, il tassista di Padova, come si chiama lei? Io mi chiamo Fabio. Fabio, il signor signori, Fabio... I signori, dato che stanno correndo, devono rendersi conto che corre il mondo. Corre, scusi? Che corre anche il mondo. Certo, corre anche il mondo e cambia il mondo, no? Cambiano le mentalità. Esatto. Ma signor Pierluigi... Bisogna che si faccia una isola. No, c'è bisogno che... Si facciano un'isola. Un'isola, cioè? Si fanno un'isola per conto proprio e là decidono tutto. Lei dice quelli razzisti, quelli che pensano queste cose, dice lei. Senta, ma lei come la... chiedi al signore quanto ascolta la Zanzara. Scusi? Quanto l'ascolta la Zanzara? Quando l'ascolto? Quanto? No, quanto l'ascolta? Tutte le sere quando vado a casa e quando sto in servizio. Viva i tassisti! Grazie! Grazie al signor Fabio, tassista da Padova, 20:32. Si faccia una isola, è il buon senso. Si faccia una isola quel signore che pensa che... No, ripeti, tu che sei di Roma, i se faccia una isola. I se faccia una isola. I se faccia una isola. No, vabbè, se non riesco, è complicato, dai, su, è complicatissimo questo accento. E i se faccia una isola. E si facciano una. Se si facciano un'isola, cioè quelli che pensano che abbia sbagliato la concia a dichiarare la propria omosessualità, come ha detto quel signore di prima, si facciano una isola e vadano a vivere da un'altra parte. Questa è la realtà, no? E dico anche ai signori dell'ambulanza che stanno andando a Latina che ci vuole, come ha detto anche il tassista, un check-up, direi, completo. O sbaglio, Parenzo? Un check-up completo. Completo, totale. Benissimo, allora, Carlo da Roma, anzi no, Tonino da Bari. Tonino da Bari, buonasera. Tonino? Sì, buonasera. Dica. Dottor Cruciani, buonasera. Mi meraviglio come due giornalisti come voi perdano il tempo con un deficiente del genere. Con chi, scusi? Quello di Latina. Beh, ho capito, ma dobbiamo far esprimere a tutti la propria opinione. Ma non si perde mezz'ora per un elemento del genere. Va ricoverato e basta. Vabbè, adesso non esageriamo, insomma, Tonino. No, va ricoverato. No, ma per carità, sono... lealtà. Sì, no, ma anche secondo me va un po' ricoverato. Però le dico la verità, Tonino. Cioè, siete proprio... due persone intelligenti, perdere mezz'ora con questi. A parte che elementi... non è la mezz'ora, ma erano cinque minuti, Tonino. No, adesso non... sto parlando... No, certo. A me mi ha stupito la pacatezza con cui lo diceva. Cioè, non è che ha telefonato un invasato per dire... Cioè, lo diceva con... come se fosse una cosa più... convinto. E la cosa più naturale del mondo. Beh, vi devo dire che nella questione della signora Concia, secondo me ha sbagliato lei, perché vogliamo dichiarando... drammatizzare, dottor Cruciani. Come sdrammatizziamo, caro Tonino? Mi dica. Allora, le spiego. Io innanzitutto per lei sarei una miniera d'oro, vabbè. Mi dica, conosco tutti degli ultimi 20 anni. A Bari? Da Patrizia ad altro, per motivi miei di lavoro. Sì. Però c'è questo. Io stamattina ho trovato un cagnolino meraviglioso che mi leccava tutto. Però voglio far sorridere Parenzo. Lei non può immaginare neanche come l'ho chiamato. Come l'ha chiamato? Scilli, che leccava. Scilli. In quel senso. Cioè, siccome era un bellissimo cagnolino, leccava tutto, l'ho dovuto chiamare Scilli. Vabbè, pure lei però, Tonino. L'ho dovuto chiamare Scilli, mi perdoni. Perché? Perché leccava tutto e allora la Perché leccava tutto. L'ha accostato a Scillipoti. No, io l'ho chiamato Scilli. Vabbè, ho capito, qual è il riferimento? Scilli, ci faccia capire, Tonino, lei sarà pure una miniera, però ci faccia capire. Lei è troppo intelligente. Scilli come chi? Scilli come chi? Come Scilli? Beh, Parenzo usa dei diminutivi. Ecco, abbiamo capito. Dunque, Scilli come Scillipoti, benissimo. Cioè, in sfregio a Scillipoti lei ha chiamato questo cagnolino che leccava, dunque con riferimento a leccaculismo, tra virgolette, parola che io odio, di Scillipoti, l'ha chiamato così il cane. Vabbè, ognuno ha le sue perversioni, Tonino. Non condivido la scelta, diciamo. Ognuno ha le sue perversioni, abbia pazienza, Tonino. Questa è una perversione vera, però, forse peggio di quella del signore di prima. È probabile, però c'è questo. Cioè, se a lei di fronte a un cane che la leccava le è venuto in mente Scillipoti, se lo faccia dire. No, è un perverso. Scilli. Vabbè, ho capito. Scillipoti, ci siamo capiti. Però c'è un giallo. C'è un giallo. Sentiamo. Oh. Quanti politici ci hanno provato con te? Un numero discreto, o perché sono disperati, o perché forse nella media del Parlamento italiano io ero abbastanza commestibile. E con qualcuno ci sei stata? Do prima una risposta per le Iene, e che vi consento di andare in onda, e mai. Quella invece che dovete tagliare per forza è... sì. Giallo Luxuria. Hai sentito, ecco. Parenzo? Hai sentito? Sì, come no. Giallo pazzesco, un giallo pazzesco. Non so se sia pro spettacolo oppure sia vero. Cioè, qui c'è da chiedere. Io credo molto. No, a che cos'è che non credi? Credo moltissimo, credo che sia una cosa molto verosimile. Mi ricorda molto quando Cicciolina andò in Parlamento con Pannella. Sì. E Pannella, poi la stessa Cicciolina, ricordò che lei era attenzionata, diciamo, da molti, sì, molti deputati, anche della Democrazia Cristiana. Quindi è verosimile, tutto il mondo è paese, perché no? Signora Lussuria? Salve. Come sta? Oh, bene, tutta intera, tutta compatta, grazie. Come compatta? Ci manca, compatta, ci manca, ci mancherebbe... Non perdo ancora pezzi per strada, ecco. Ma ha sentito per caso un signore Pierluigi di prima? Il signore Pierluigi che chiamava da Latina? No, forse non l'ha sentito, perché non era il collega. No, ho sentito. Ah, ha sentito pure il signore Pierluigi? Che si è spiegato. Ma un bacino, Pierluigi. Nel passato avevano inventato un'isola, che era le isole Tremiti, dove al confino ci mandavano i gay. Dovrebbero inventare un'altra. Le vecchie queste, sai, il confino, le cose. Ma dovrebbero... No. Ma... dovrebbero far creare una cosa sulla Concia? Sì, sì. Allora, io non voglio far buttarla in polemica, quindi se la volessi buttare in polemica potrei dire che o sei lesbica vera e quindi vai mano nella mano con la persona che veramente ami e rischi di essere offesa per strada, oppure sei una lesbica finta che vuole fare carriera artistica e trovi il potente di turno che basta che ti strofini con lei e qualche posticino te lo trova. Però... no, però vi faccio capire questa polemica. Chi è riferita questa? Sì. A chi è riferita questa polemica? Ci sono molti uomini potenti, uomini non solo potenti, devo dire, uomini eterosessuali, la cui fantasia erotica prominente è vedere due donne che si toccano, che si leccano tra di loro. E vabbè, non è uno scandalo. No, è assolutamente uno scandalo. Però a questo punto, se tu ti ecciti a vedere due donne, a questo punto io dico che tu devi essere anche una persona pronta a riconoscere che due lesbiche non solo possono toccarsi per il piacere tuo, no? Scopofilo, voyeuristico, eccetera, ma anche che due donne possono davvero volersi bene e costruire una vita insieme. Beh, no, questo, quindi, questo è un altro discorso, però. Questo è un altro discorso. No, non è che discorso. Se uno gli piace la scena omosessuale da vedere, per forza deve essere d'accordo, per esempio, con le unioni di fatto. Sono due discorsi. No, deve esserlo, perché altrimenti è schizofrenico. Beh, no. Allora, se io c'ha ragione Luxuria. No, Parenzo. Allora, se io, quando io sento attestati di solidarietà da parte di Schifani, di Fini e tutti quelli, allora io dico: se voi condannate una persona che insulta due donne perché si tengono mano nella mano, dovreste essere coerenti al punto tale da dire: a questo punto bisogna che non solo non vengano offese queste due persone, ma che vengano riconosciute da una legge dello Stato. No, perché sono due cose completamente diverse. Allora, o tu dici due donne non possono amarsi e non possono neanche andare mano nella mano, ma no, sono due cose diverse. E quindi le condanni tu cur, oppure dici due persone devono essere rispettate nel loro affetto, sia quando hanno dei segni visibili per strada, sia da una legge. No, mi permetto sommessamente, nonostante il fatto che io l'apprezzi molto, lo sa, mi permetto di dissentire da questa cosa qua. Non c'entra assolutamente, sono due cose completamente diverse. Uno può esprimere solidarietà nei confronti di un atto di violenza verbale molto grave nei confronti di due persone, lasciamo perdere che siano persone omosessuali, eterosessuali, eccetera eccetera. In questo caso un'offesa grave, soprattutto perché è rivolta verso due persone omosessuali, perché l'offesa era rivolta proprio a quelle persone proprio in quanto omosessuali. Dunque è gravissima questa cosa, ma non è che se uno esprime solidarietà poi automaticamente deve essere d'accordo col, che ne so, col matrimonio gay, con le coppie di fatto. Posso dirle una cosa, dottor Cruciani? Allora a questo punto è molto più coerente e meno ipocrita la persona che ha insultato le due ragazze che andavano mano nella mano di quelli che esprimono solidarietà a parole e poi non vogliono una legge che... Cioè, mi faccia un esempio di chi è ipocrita nella solidarietà alla Concia, quello che ha sentito in questi giorni, che è veramente il massimo dell'ipocrisia. Tutte le, dalla Carfagna a Schifani, tutte le persone che dicono: ah, è ingiusto che una persona aggredisce due donne che vanno mano nella mano, e poi quando gli vai a chiedere, dico, ma possiamo fare una legge in cui si può riconoscere che due persone che si vogliono bene possano avere anche il diritto all'eredità, che possano avere anche il diritto di poter entrare nella stanza dell'ospedale se uno dei due sta male? Io per me, penso così, dottor Cruciani. No, e ma per me, allora io a questo punto, tanto di cappello la persona che ha offeso la concia e la sua compagna, e tanto di ipocrite alle persone che a parole sono bravi a dare solidarietà e poi nei fatti, cioè nelle leggi, non vogliono riconoscere, cioè, l'affettività tra due persone dello stesso sesso. Lei dice meglio quelli che insultano, perché sono coerenti rispetto per esempio alla Carfagna che non vuole... Ma però sì, questa qua... almeno sono più chiari, sono più sinceri, dottor Cruciani. No, io non sono stufata di questi finti amici. Ottimo. Ma non io preferisco un vero nemico a un finto amico, perché l'ambiguità si vede anche in queste cose. Che dici, Parenzo? Luxuria Premier ha detto una cosa di assoluto buonsenso, perché c'è un velo di ipocrisia in quelle dichiarazioni di principio fastidiose e pelose in cui dice: atto gravissimo, riconosciamo l'amore lesbico, riconosciamo l'amore quello sessuale. Nessuno ha detto riconosciamo l'amore lesbico, non è che quelli che hanno dato solidarietà hanno detto riconosciamo l'amore lesbico. E si devono vergognare. Ma devono non c'entra niente, ma sono due cose diverse, sono due cose diverse. Cioè uno la solidarietà nei confronti... civile, ma lascia perdere, quello è l'amore. Ho capito, ci sono due problemi diversi. Uno è quello del riconoscimento di alcuni diritti. C'è chi vuole fare una legge di un certo tipo, c'è chi vuole fare una legge di un altro tipo. Fino adesso non si è fatto niente, e su quello probabilmente ha ragione Vladimir Luxuria e tante altre persone. Una cosa è quella. Ho capito, ma non è che uno, scusami un attimo, allora non è che Guarda che Luxuria non sta parlando dell'adozione dei bambini da parte di... Ma ho capito che non sta sì, ma non è che possiamo dire che in Italia oggi mancano diritti fondamentali, perché non è così. Non dire stupidaggini, non mancano siamo diritti fondamentali. No, non è così. Siamo al Medioevo. Non è così. Allora c'è una parte del paese che è oscurantista e medievale. Non è così. Non è così. La maggioranza del paese che è oscurantista e medievale, le persone omosessuali vivono in una situazione di oscurantismo. Non è così. Dai, su. Sì, diritti non riconosciuti di persone che non hanno, persone di serie B che non hanno diritti. No, ma non è così. Non è così, perché allora ci sono tanti. Dottor Cruciani. Sa cosa significa non poter chiedere a un datore di lavoro il permesso di lavoro se viene a sapere che il tuo compagno è in disgrazia? Per carità, ma queste sono... Queste è un altro... Però intanto queste sono questioni concrete, né di lobbismo, né di persone che... Qual è l'esempio che lei mi ha fatto? Scusi un attimo, signora Lussura, qual è l'esempio che mi ha fatto lei? Un datore di lavoro, una persona omosessuale che va dal datore di lavoro e chiede un permesso per che cosa? Può chiedere il permesso perché magari ha saputo di un problema del suo compagno. Ma quello succede anche agli eterosessuali, cioè se io non è che se io ho un problema per la mia moglie o per la mia compagna e vado dal mio datore di lavoro e mi dice chiedo un permesso per motivi familiari, che può chiedere anche un omosessuale. Questo sì, è l'esempio sbagliato. No, perché purtroppo noi non siamo riconosciuti né come famiglia né tantomeno come parenti. Ma forse non ha capito ancora. No, ma perché non è che esistono i permessi per motivi familiari, ma che potrebbe essere per chiunque. Chiunque, per il padre, per la madre, per chiunque. Però una persona che convive con un'altra per 30 anni non viene riconosciuta come parente dallo Stato. Ma questo è considerato un emerito sconosciuto. Io sai quante persone ho sentito che non hanno nessun diritto su questo, nessuno. Sì. Cioè, persone che hanno congedo familiare, per 30 si chiama anni, congedo familiare. Siccome gli omosessuali non sono considerati famiglia da questo Stato talebano, perché non sono considerati famiglia dallo Stato talebano. Questa è una scelta che possiamo. È evidente che hai ragione tu da questo punto di vista, cioè non sono considerati famiglia. Hanno quindi diritto al congedo parentale. Sì, d'accordo. Però... quindi è uno Stato talebano. Ma non è così. Lo Stato talebano è un altro. Non usare parole a sproposito, Parenzo. Lo Stato talebano non c'entra assolutamente nulla con questa cosa qui. Non c'entra assolutamente nulla. Abbiamo il traffico, però vorrei tornare perché siamo partiti. Da una polemica molto interessante, sempre attuale, che è quella sui con una provocazione intelligente di Vladimir Luxuria, che dice: io non sono d'accordo, ma si tratta comunque di una provocazione intelligente, che dice: preferisco quelli che hanno insultato la concia perché almeno sono coerenti con se stessi, piuttosto che gli altri, quelli che hanno espresso solidarietà e poi non sono favorevoli a concedere diritti alle coppie omosessuali. Traffico. Eccoci qui, 800 24 00 24, siamo quasi alla conclusione di questa puntata, come al solito, Parenzo, direi molto turbolenta, della Zanzara, in linea con la... Marina, con la zanzara, come al solito, abbiamo avuto ospiti, ricordiamo, Ceroni, attaccato oggi dal Fatto Quotidiano, metodo boffo all'incontrario, ieri picchiava la moglie, oggi riforma la Costituzione, non vedo cosa c'entra il legame picchiava la moglie, riforma della Costituzione, anche se fosse vera la prima cosa, lui è stato ospite da noi, ha chiesto l'intervento di Fine Napolitano smentendo l'articolo del Fatto, vedremo le conseguenze di questa cosa. Poi è stato con noi Giuliano Urbani, che ha detto delle cose interessanti, uno dei fondatori di Forza Italia, ha detto per esempio che certo nel reclutamento oggi all'interno del PDL contano molto più le apparenze, diciamo così, le apparenze, la chirurgia estetica, diciamo, beh, adesso proprio così non l'ha detto, che la sostanza. E poi ha dato una piccola bastonata, no, a Montezemolo, dicendo beh, insomma, sì, Montezemolo mi sembra più appari più, no, meno sostanza e più immagine. Vabbè, siamo con Vladimir Luxuria, però Stefano da Milano prima, buonasera. Buonasera. Allora, tre cose. Luxuria è una persona intelligente, però sta dalla parte sbagliata. Parenzo, da che parte sta, scusi? Non ho capito, perché lei sta con se stessa in questo. Come, no, come modo di esprimersi, come punto di vista. Che vuol dire dalla parte sbagliata, Stefano? Non ho capito. Lei dice sta dalla parte sbagliata. Dalla parte sbagliata, perché purtroppo se aveva un'idea politica diversa, probabilmente tutto era conseguente a questo e aveva dei punti di vista forse migliori. No, ma non ho capito, scusi Stefano, beh, è un ragionamento, ma è il ragionamento che non torna dal punto di vista logico. Cioè lei dice è una persona intelligente, però sta dalla parte sbagliata. A parte che in questo momento la signora Luxuria è una donna di spettacolo che non fa politica attiva. Lei dice per il trascorso in Parlamento dal 2006 al 2008. Sì. Cioè sì, è stata con la parte sbagliata, dice. Beh, secondo lei è la parte sbagliata. Okay. Benissimo. Poi uno. Parenzo, io lo manderei veramente in un paese talebano, dove si rende conto che la sua bocca sarebbe già stata chiusa da un pezzo, perché anche bravo Stefano, su questo sono d'accordo con lei. Poi indifendibile. No, non sul mandare quello, sul fatto che la parola talebano non si può usare, su. Assolutamente. In Italia penso che dire che l'Italia siamo in un paese talebano proprio con riferimento al coso, poi si può utilizzare come metafora naturalmente, ecco. Ma non che siamo uno stato talebano. Allora io adesso vorrei invece quella che c'è Pierluigi. Anche io ho dato a Parenzo del talebano, anche io ho dato no, a Parenzo a Telese del talebano su un'altra cosa. Però ma non c'entra nulla. Dei diritti degli omosessuali siamo a livello. Arriviamo al punto qua. Stefano, allora, vai. Il discorso mio era questo qua. Io volevo ricordarmi a quello che era il discorso di Pierluigi, che voi due avete attaccato. Sì, ma c'è proprio da analizzare il discorso di Pierluigi? Non c'è da analizzarlo molto. No, aspetta, allora io dico semplicemente una cosa. Certi diritti, come diceva adesso Luxuria, non vengono riconosciuti agli omosessuali perché semplicemente forse non devono essere riconosciuti, in quanto prima di tutto bisogna stabilire che cos'è una situazione di vita normale. Cioè, se tutti avessimo gli occhi azzurri, la vita potrebbe proseguire tranquillamente? Ma lei si sente bene, sì? Lei sta bene, Stefano? Sì, io sto bene. So bene. Facendo un esempio. La febbre alta. Dico, però è genetica questa. Okay. Allora, se tutti fossimo omosessuali nel mondo, quanti anni di vita avrebbe l'umanità? Stefano, questo è... dottor Cruciani? Sì, mi dica, signora Luxuria. Ma voglio tranquillizzare l'ascoltatore, non saremo mai tutti omosessuali o tutti. Cioè, la percentuale è sempre la stessa, può cambiare la percentuale di chi ha il coraggio di dichiararsi e chi deve è costretto a nascondersi in base al contesto culturale e geografico. Ma non ci sarà mai una società, state tranquilli. Stia tranquillo, Stefano, stia tranquillo. Ma tranquillissimo, ci mancherebbe. Sia tranquillo Stefano, sia tranquillo, ma è un'ipotesi, fare quest'ipotesi sfiora il razzismo, diciamo la verità Stefano, fare solo quest'ipotesi o no? Sfiora anche la stronzata, no. Soprattutto. Sì, anche la stronzata. Secondo me no. Secondo lei no, benissimo. No. Dunque lei ha paura dell'omosessualità? No, io non ho assolutamente paura. E allora perché fa questo ragionamento se fossimo tutti omosessuali? È come dire se fossimo tutte donne o tutti uomini. Non possono pretendere gli stessi diritti, questo sto dicendo, semplicemente questo. Poi io conosco tanti omosessuali, persone rispettabilissime, intelligenti. Si dice sempre così, sì. No, è vero, no, è la verità, ci mancherebbe. Sì, beh, ho capito. Non è che quando lei dice, scusi un attimo, è la mentalità che è interessante, Stefano. Quando lei dice conosco tanti omosessuali per bene così, come dire, il punto di partenza è che beh, sì, sono omosessuali, però sono anche persone per bene, apposta signorili. No, io penso che il 90% siano persone per bene. 90, il 10% che c'è. Ma l'umanità, perché 10% come negli eterosessuali, cioè, ecco, ho capito. Ecco, quello, nel senso che non è che perché un omosessuale è un delinquente. Vabbè. No, questo assolutamente. No, ma ci mancherebbe altro. Stefano, la ringrazio, però qui signor Lussuria, non sfuggiamo alla domanda iniziale, che era chiaramente quella che le ponevano i signori delle Iene, i nostri amici. Cioè, ci faccia qualche rivelazione su questo. In quanti ci hanno provato con lei quando era deputato? Allora, io sono un cesso, posso dirlo, non mi reputo una persona sessualmente così attraente, quindi non voglio fare qui la parte di quella che i politici gli andavano dietro, però poiché io sono una persona sincera e proprio non ci riesco a dire una bugia, proprio non ce la faccio, proprio fisicamente non ce la faccio. Se uno mi chiede se nella mia vita e nella mia carriera politica non ci sia mai stato un politico che non ci abbia provato con me, e che non sia mai avvenuto che sia andato a letto con un politico, io non ce la faccio a dire una cazzata, cioè lei... non ce la faccio a dire la bugia, e quindi dico la verità. È successo, cioè, che è andata a letto quando era deputato con un parlamentare, con più di uno, di destra o di sinistra. C'è un detto napoletano che dice o cazzo non vuole pensieri, e quindi per quello che riguarda l'attività sessuale non è importante l'orientamento politico di una persona, ecco. Ma vuol dire più di uno, quindi, allora? Più di uno? Più... Uno solo, basta. Uno solo, centro-sinistra o centro-destra all'epoca? Poi sono cambiati. No, già risposto, di centro-destra. In alto, che vuol dire in alto? Senta, dottor Cruciani, di centro. Basta così. No, di centro, di centro potrebbe essere interessante. No, cioè. non voglio assolutamente aggiungere altro. Dai, super, carina, dai, almeno. Io non ho mai voluto rivelare, cioè, so cos'è. No, cioè, se tu mi fai una domanda e mi dici se mi è stato con un uomo politico, io non ce la faccio a dirti una bugia e quindi ti dico di sì. Certo. Ma se tu mi chiedi di dire chi il nome, io... Non... No, beh, il nome. Il nome no, ma lo schieramento politico sì. Fare il gioco, capite, a esclusione, no? No, perché... ma il nome no, ma lo schieramento politico è importante, però. Lo schieramento politico, come dice Parenzo, è importante, nel senso che... O centro o centrodestra. Cioè, lo schieramento politico... Guarda che non c'entra niente lo schieramento politico, No, perché siccome quelli di centrodestra sono i più bacchettoni su questa roba, diventa notizia. Sarebbe interessante. Cioè, solo uno è di centrodestra, allora diventa un qualcosa di interessante. Ma guarda che non c'è mica... come posso dirti che quelli di un orientamento politico vanno con certi tipi di persone, quello di un altro orientamento, quindi vuol dire potrebbe essere dell'uno, dell'altro, dell'altro ancora, quindi non è assolutamente influente. Ma si è pentita di averlo fatto? No, perché è andata bene, perché no? È andata bene, è andata bene. Questo... Era di destra sicuro, allora. Perché era di destra sicuro? Scusa, come fai a dire? Perché dicono che quelli di destra sono più bravi. Ma non è vero, ma che cos'è? Questa è una stupidaggine. Non lo so, dicono. È una stupidaggine assoluta. Ma come... vabbè, niente, insomma... questa è la risposta. Dai, era di centrodestra, evidente, se no non saremo qui a parlare. No, forse è vero una cosa, che quelli di destra sono più disinibiti a letto, questo è vero. Vedi? Cioè le persone in generale di destra, non i deputati. Sono più disinibiti. Ma veramente, sono più liberi a letto. Quelli di sinistra si fanno un po' più pippe mentali, ecco, questo sono, è vero. Sì. Sono bacchettoni, un po' più bacchettoni, no? Basta così. No, dai, diciamo che anche la storia recente del governo di questo paese un po' lo racconta, diciamo, comunque. Vabbè. No, però non è lui, cioè... No, vabbè, quello non l'abbiamo mai sospettato in realtà, no. Credo che gli piacciono altri tipi di forme, nel senso altri tipi di femminilità. Sì, sì, sì, no? È proprio malato, c'ha ragione Veronica, è malato. Vabbè, adesso non ce la butti su, è malato Berlusconi. Va bene, grazie. Grazie a voi. Vladimir Lussuria di essere stato con noi, ascoltatore della Zanzara. Patrizio da Latina, io qui ogni tanto confondo il sesso. Dai. Sì. Andresti? Beh, mancano 40 secondi. Aspetta, un attimo. Ma sono sotto casa, adesso suono. Beh, suona, facci sentire che suoni sotto casa. Eh? Vabbè, Francesco D'Ancona, su. Adesso suono. Buonasera, Cruciani, buonasera. Suona, facci sentire che suoni a casa, su. Adesso sì, sto scendendo con le valigie. Sì. 30 secondi. Sì. Ecco. Francesco, intanto parli, non si preoccupi. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. 20 secondi per dire solo questo. Cioè, okay. Io sono anti-berlusconiano, sì. Non lo nascondo, ex lettore del Fatto, e sono contento di essere ex lettore del Fatto Quotidiano, perché stamattina quando ho letto l'articolo della Murri mi sono vergognato. Io sono partigiano, sì, assolutamente, come la Murri e come Ceroni, del quale conosco vita e opere, potete immaginarvene, e non parliamo necessariamente di un De Gasperi, insomma. Ciò nonostante, assolutamente vergognoso l'attacco personale della Murri, non fosse altro perché ricalca proprio le orme del metodo, insomma, boffo, il metodo messiano, eccetera. Ho capito. Mamma mia. Mi meraviglio del fatto che il buon Parenzo non stigmatizzi questo ho capito, insomma, ho articolo con la necessaria. Parenzo adesso c'ha da fare perché ha di nuovo incontrato la figlia. Dunque, mia figlia mi ha appena detto mi sei mancato tanto. Per cui rimanderei i commenti su questa cosa a lunedì. Grazie David, grazie a tutti, ci sentiamo lunedì 18, anzi no, lunedì non ci sono io. Dopo Pasquetta, martedì 18:30, martedì. Lunedì c'è comunque la zanzara. Ciao. La zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.